Ok, allora adesso tra poco. Ma metti in diretta così mangiate in diretta. Esatto, andiamo in diretta, così mangiamo in diretta. E Perché non dovremmo. siamo anche là? E perché adesso ti devo ancora raddoppiare lo schermo. Dovremmo recensire quelli che portano da asporto. In diretta. In diretta qui. Esatto. Questo tipo faceva cagare il Esatto. cazzo. Stavolta Ok. ce l'offrite, così Voto. magari vediamo Voto le 10. Ma faceva cagare 10. Allora, gag a parte, benvenuti. Siamo in diretta. diretta con Ah sì. il 19° episodio di. Ma non siamo a livello 19. No, Coloni, dove giochiamo a Dungeons and Dragons versione 5.0. Come ben sapete ormai, questa è la nuova visione che avrete tramite telecamere, tecnologie supreme e altre Per tutta la sorprese gente che guarda. all'interno della serata. Solo per voi il progresso tecnologico va avanti, sembrerebbe. Così sembrerebbe. Mentre sgrano anche questa patatina, presento i miei ospiti che sono anche più imbarazzanti di me, Andrea Giacomo Vecchi, come diceva il più imbarazzante, Luca Lazzarini, Enrico Catabriga e Giulio Bosi. Oggi non è con noi Edoardo Saladini, che salutiamo, e neanche Stefano Gamberoni, Beh, che ma di solito non è salutiamo. mai con noi, Non è è con sempre di noi, là. ma non è con noi neanche in collegamento, forse non lo avremo per un po', ma gli mandiamo comunque i nostri saluti. E vi ricordiamo che noi siamo Tycoons and Dragons e che ci potete seguire sulla pagina Facebook di Tycoons and Dragons, anche su Guarda quella la di telecamera quando lo RGDR. dici, non guardare Sì? me. Vai, stai parlando con gli spettatori. E anche sul blog di rgdr.wordpress.com che cercherò di aggiornare appena possibile. So che è un po' rimasto indietro. Sei pure in vacanza, io non lo Senza so. ulteriori indugi, Lo sanno i telespettatori cosa è successo? Sì, mi sono. No, non sanno che mi sono. Cioè, sanno che ho detto a mezzo servizio, ma non mi sono spaccato i legamenti. Infatti, non mi vedrete fare tanti movimenti con questa, ma faremo con questa. Comunque, senza ulteriore indugio, senza commiserarci troppo, passiamo alla sigla. Così, Yuri. Ma il cartello è stato messo lì per pubblicità o per evitare la pubblicità al Come Mac? ben sai, tutte le grandi serie TV mettono un patacco, no? Io non ho il patacco e quindi andiamo con questo. Tutte le grandi serie TV. Potrei fare il patacco di Tycoons and Dragons, sarebbe A una bella meno figata. che l'Apple non ci paghi, allora. Esatto. Non ci preoccupiamo degli altri, esatto, degli altri. Degli altri Questo brand. direi che questo non si vede neanche, questo Degli altri brand. è sempre. Io avrei travasato la bottiglia di Coca-Cola in una caraffa, ad esempio, per farla pulita. Invece noi le paghiamo per averlo. Diciamo che è più figo col cartello. Io non ho i dadi. Ah, ma sono giù. Dadi pieno, direi. Questo ci basta per tutta la puntata. Qual è il mostro? No, il mostro mi sa che farete fatica a vederlo. Vediamo. Ah, oggi andiamo veloci, Sì, dai. è buio. Siamo. Giulia ha lanciato di nuovo Fog Cloud. Allora, vediamo un po'. Mettiamo questa. O preferite l'altra? Questa siamo più veri. Ah no, Tu sì, non devi siamo. mangiare, detto? No, già mangiato. Poi se vogliono far mangiare ancora, non mangiano. Cos'hai preso alla fine? Delle Una. porcate che hai elencato. Era una di quelle, dovevo prendere tutto. Abbiamo dato la piadina, però Piadina. qua dietro dice che ci vuole un'ora, vabbè, vedremo. 30% di sconto Ma la poi. piadina più buona che avrete mai È mangiato. quella che Aspetta. volevo che andasse su Just Eat, quella delle moline. Allora, direi che dopo aver fatto la sigla, abbiamo già fatto il nostro commercial, quindi andiamo a chiedere a uno di voi il riassunto Aspetta, aspetta. dell'ultima Io posso raccontare sessione. la parte che non ho Io visto. direi che la fa l'AS. Noi avevamo già un metodo per stabilire chi fosse fai il riassunto. No, qual era? No. Vabbè, possiamo fare così, dai. La fa l'aso sto giro, che visto questo protagonista dell'episodio. No, non era lui la prima metà? Ma lui è stato protagonista di quello precedente. È anche in parte di quello che è successo dopo. La serie non può andare avanti senza di me, lo sappiamo benissimo. Vero, è diventato ormai Giulio protagonista assoluto. Beh, quindi la prima parte è stata la conclusione dell'episodio omnicomprensivo di Giulio e della sua storia. Lo special di compleanno. Dove ci siamo trovati a fare da praticamente giardinieri. Giardinieri? Sì, tagliavamo delle cose che ricrescevano. Ah, ok. Più o meno... Le teste di un'isola. E dopo aver partecipato alla grande festa del villaggio per averlo salvato, durante la notte qualcuno ebbe sete e si è fatta risentire la famosa maledizione che ancora non si era manifestata, quella che aspettavi con, esatto, grande e diciamo che qualcuno si è riuscito a salvare solo per il suo buio e una scena degna dei migliori Scooby-Doo. Esatto. Niente, ritrovandomi trasformato, ho attaccato il primo che ho trovato e non sono riuscito a ucciderlo. Il concetto è quello, perché si è salvato pure una... Come è ripartito? Pensavo ne facessi un sonetto, onestamente. Addirittura. È ripartito dicendo... Non lo dire Emma, perché mi sono trasformato, il primo... ho attaccato il primo che ho trovato. Purtroppo con la nube non sono riuscito. Sì, neanche diciamo a assaporare un dito. Diciamo che ha avuto parecchia fortuna, visto che era sguarnito di qualunque altra difesa. Cioè, più che altro, cioè, la cosa bella è vedere che tipo quando potete tipo farvi del male tra di voi... Partecipiamo molto attivamente. Esatto, il momento in cui siete proprio più interessati, tutte le possibilità. L'hype cresce così. No, ma è bello. Cioè, fa molto... compagnia. No, le mie, come si dice, le mie... Non è vero, in questa campagna io non faccio... Le mie campagne sono molto così, quindi ci sta, avete interpretato bene, bravi. E, la conclusione dove ci eravamo fermati la volta scorsa è stato, oltre ad aver fatto questo attacco a Giulio, la mia immolazione per far usare Kat un talento che non avrebbe mai usato. Esatto, grazie. Ora posso rimettere lo sgabuzzino perché non userò mai più. E quindi? E quindi io sono per terra. E quindi sei diventato un piccolo orso, questo non so se l'avevi detto. No. E, beh, giustamente, non è così rilevante. Ah. E quindi avevi, appunto, sei stato adesso atterrato dopo che Giulio, e quindi siete tutti lì con l'orso e tutta la gente che è nel villaggio. Sei tornato a forma normale. Sì, è vero, sei tornato a forma normale, quindi si rivede che sei effettivamente tu. Non nudo. No, vestito. Pigiama. Vabbè. No, beh, non sei nudo. No. E quindi no, niente, visto, allora... Visto che in un'altra serie Giulio aveva intenzioni strane come obiettivo, ho saputo essere nudo per terra, svenuto, non era proprio ideale. Saresti dovuto essere morto. Per sapere a cosa mi riferisco, guardate la puntata scorsa. Bravo, Lars. E... Cosa mi chiama Fabio che sono in diretta? Lo sa però, infame. Vediamo adesso. La partecipazione. Pronto, Fabro, hai chiamato in diretta, bravo. No, mi sento di pentole. Stiamo giocando, la grande. Per la prima chiamata c'è una partecipazione come ospite, c'è il, alla prossima c'è puntata. C'è il livello gratis, dimmi. Quindi? Se ti metti in viva voce, sì, tieni. In viva voce. Ah, metto in viva voce. Ciao, sì, Fabro. Ciao, Fabro. Ciao a tutti i segaioli che stanno guardando Facebook in questo momento. In anche assoluto, siamo veramente tanti. Sì. Devi essere un po' più preciso. Anzi, saluto la Gine che ci sta guardando, che vi starà guardando. No, non credo, è appena tornata dal Marocco. Niente, chissà a fare cosa. con la famiglia. Va bene, c'è qualcosa di non confidenziale che volevi condividere con noi? Assolutamente, a parte un saluto e un ringraziamento a tutte le persone presenti. poi dovevo dirti due cose al volo, quindi... Però ne vogliamo sentire tutti. Nel tuo ufficio, allora ci sentiamo domani con calma. O sono urgenti? No, te li posso dire anche domani, sono delle stronzate. Va bene, dai, allora ci sentiamo. Non giocate dormire, troppo. Che domani si lavora. Non giocate troppo. Va bene. Anzi, che tanto voi domani non lavorate. Anche fino alle 4 della mattina. Catta lavora. Purtroppo, sì. Catta lavora. Catta il fisico. Catta a parte, vado che a questo alle 10 del martedì ha già gli occhi chiusi. La palpebra era chiusa 10 minuti alle 9. Esatto, c'era la palpebra che è più chiusa di quando io sono nella fase REM, quindi Catta sta già dormendo tranquillamente. Va bene, Fabbro. Visto che sei un primo ospite della serata, qual è il tuo personaggio preferito? No, allora lancio un dado. Prendi quello rosso. Non c'è un dado rosso? Sì, ce ne sono. Non ci prendi il dado rosso? Prendi il dado rosso. Scusa, faglielo vedere in diretta. Guarda Facebook in diretta, scusa, lo vedi. Ah, è vero. Ho capito, sto guidando, magari. Beh, vabbè, che fa. Non potresti neanche parlare al cellulare, allora. Vai, allora facciamo vedere ai nostri telespettatori. Cazzo, vai, tirate un dado rosso. Vai, tira. No, ma fa che sia parte del gioco. Almeno 7, ma è un di 10, ma è più un viola. No, un di 20, va bene. Di 6. Bravo, Fabretti, congratulazione. Hai tirato un dado con noi in diretta. Ora ci sta. Voto 10, non anche se vede. Il numero era il 6. Non si vede. Non si vede. Cosa non si vede? Sì, che si vede, da Dio, guarda. Ciao, Fabbro. A presto, buona serata. Ciao. Va bene, ora possiamo giocare. E quindi niente, ci sono tutti i tutto il villaggio. Tutto il villaggio attorno che dice: ah, è maledetto, la maledizione, no. Arriva il capovillaggio che si avvicina a te, Giulio, e fa: questo potrebbe essere un ottimo sacrificio per Gangleri. Sacrificio. No. È lui che incita alla rivolta, vero? Sacrificio. Il grande dio delle tempeste ha altri progetti per questa umile creatura mortale. Questo essere impuro, neanche il dio delle pantegane lo vorrebbe come sacrificio. Dobbiamo trovare il modo di mondare la sua. Sarebbe anima. Stato divertente, però, se fosse stato il top mannaro questa battuta. Neanche il dio degli orsi. E dobbiamo trovare il modo di mondare la sua anima. Dove? O di mondare la sua presenza da questo piano dell'esistenza. Mi dispiace per la confusione che si è creata a capovillaggio. Che come cazzo si chiama? Oh. Nomi di capovillaggio. Gork. È un orco. Capovillaggio. È un orco. Guarda come si vede bene nella tazza adesso. Tutto il merchandise. Aumenterà le vendite. Gork, sono rammaricato che il vostro villaggio sia stato preda di questo spavento non necessario. Il vostro amico è affetto da una maledizione tremenda. Una maledizione selvaggia. E questa io non vorrei dire andrà... che sto facendo i tiri, però, dovrei fare i tiri sotto. No, ti ha stabilizzato. Ah, ok. E questa cosa andrà purificata, però ne riparleremo domattina con la Sol. Mi affido a te, ma anche perché ormai sono stanco. Mi affido a te. Sanguinante. Forse però è meglio prendere delle precauzioni, legarlo finché. Sì, certo. Sono sicuro che il qui prode. Magari anche può frustarlo. Ah! Quake saprà fare buona guardia se non si prende. Non sono svegliato prima. Sì, come al solito, preparito. Dicevo, la pena per un membro della ciurma che attacca un suo compagno. Anche se a terra, però. Quando si rialzerà? No, a terra nel senso non in mare. Vabbè, se parte della ciurma, parte. Guarda, è a terra, ci sta. Saranno meno 10 frustate da eseguire in pubblica piazza. Non c'è una piazza in questo villaggio, vero? Ora non veramente. Allora no. Nomino questa però, piazza. Però sì, cioè, nel senso, c'è uno spiazzo, sì. Vabbè, tra le cose. Che c'è scritto, questa è la piazza di Harry. Questo probabilmente insegnerà questa testa calda di non... preso da... Beh, tanto tu sei svenuto. Va bene, quindi cosa fate? Metto su due pali e... bel giro apposta. No, ad X, no. E intanto lo lascio. Forse non è necessario. Ha detto che Eric, che Eckhart avrebbe assolutamente... E questi animali devi insegnarli le cose in un certo modo, non imparano mai. E quindi fai due pali e lo leghi tipo ai pali, così, però secondo me tipo muore dopo un po', no? Per quale motivo? Non so, cioè se tipo una persona tu la leghi a due pali, così, non muore dopo un po', cioè è tipo una roba... No, vabbè, è una faccio sorta di gogna. Giorni, però... Cioè, ok, se lo lascia lì due lascio giorni... la notte sì. E poi lo riprendo la mattina, che? Non sopravvive, non per so. Quale motivo dovrebbe morire? Cioè, Giulio è l'esperto di torture. No, non muore. Però cioè, sono tipo quelle robe che in certe posizioni dopo un po' tipo... Cioè, quando sei crocifisso... Beh, che... non mi mette in croce, spero. Se sei tipo così ti va l'acqua nei polmoni. Ma tipo crocifisso è quasi meglio, cioè al netto degli chiodi nelle... Ma no, ma lo lega semplicemente che sta così. Fa ad X, non so come dire. Sì, ma tipo le mani quindi legate ai pali? Sì. Ah, ok. Ho capito. Sì, ho capito. Cioè, è molto doloroso, sì. Non mi pensavi quei pali così... No, io pensavo a due pali e tipo legato appeso fondamentalmente. Ah, ok, sì, ci sarebbero stati dei problemi all'articolazione. Esatto, tipo così, tipo no, lo massacra. Le gambe per terra, più chiaro. Ah, per terra, ah, ok, tipo, no. Tipo allora, gogni, no. Tipo una cosa. Ah, ok, no, vabbè, allora ok, d'accordo, vabbè, nessun problema. Va bene. Cioè, nel senso, per me è nessun problema in assoluto, però forse per cui sì. Dico alle comari del villaggio di tenere da parte le verdure marce, le mani serviranno. Non è questa comunque l'espiazione di Henry. Lascia fare. Vabbè, che ci ho provato. No, hai ragione, non è l'espiazione degli dèi, è l'espiazione del marinaio. Ok, domani okay, lo legate, lo legate al palo e basta, niente di più. Così legato. E, beh, direi che fate comunque una prova. Sono mezzo smembrato. Una prova con vantaggio di utilizzare corde non c'è, però survival direi con vantaggio. Aspetta, avete tutto il tempo di legarlo. È vero che sta sta cosa qua. Che c'è questa cosa qua. Vedi che non si vede. È bellissimo, che lì è un po' indietro, raga. Arriva. 20? Ok, guarda che bello. Ah. Madonna. Oh. Dobbiamo aspettare tutte le volte che si vedono lo schermo. No. Beh, ma tanto noi siamo indietro comunque. C'è la differita. Sì. Non dobbiamo aspettare, perché altrimenti c'è un momento in cui non facciamo niente. E quindi l'obbligo scala. Ma soprattutto io posso guardare senza guardare lì, è bellissimo. Questa è la cosa. Sta diventando sempre più pigro. Beh, questa è bellissima. Va bene, dai. Allora, lo legate, ok. Ok, quando tu a un certo punto, quando diciamo sorge il sole, dopo un po' ti svegli. Ah, che bella dormita. No, per niente, no. Sei distrutto, letteralmente okay. Distrutto, sei proprio in fin di vita e hai una sete pazzesca e sei legato a un cazzo di palo, al sole, quindi è tremendo, cioè un'agonia tremenda per te. C'è qualcuno intorno? No, però non, nessuno ha detto che ti legava la bocca, quindi fondamentalmente puoi fare quello che ti fa. Oh, sì. Fai urlare quanto vuoi. urlo. Che cosa sta succedendo? Voi in mezzo la non mi ricordo nulla, avere. Ovviamente. La cosa. Nella pubblica piazza. Fammi un tiro. Nella scatola? Sì. Sulla... Si sarebbe la mente. Sulla saggezza. Però. Zero. Va bene, 17, buono. Allora. inizialmente sei molto confuso, poi hai sì, dei ricordi un po' confusi, come se avessi questa gran fame e avessi voluto per qualche motivo azzannare Arian. Ah, mi Diciamo, ricordo. ti Ok. ricordi queste cose qua? Non hanno molto senso però, per te, però sì, ti ricordi questa cosa qua, ti ricordi di averlo inseguito. E poi a un certo punto di essere stato più o meno atterrato mentre cercavi di azzannare varie persone, una gran fame, proprio famelica, bestiale, insomma. Mi sente qualcuno quando parlo, quando ho urlato? Allora, diciamo che vedi qualche popolano che si mostra, però sta lontano da te, non ti rivolge però. Dove sono gli altri? Ti guardano ma non ti rivolgono la parola. E E gli altri dove sono? gli altri, boh, secondo me, ora come ora dormono. Ah, siete andati a dormire così, brutti Saranno stronzi. stanchi, però. provo a liberarmi, se ce la faccio. Sì, Provo a tu hai muovermi. fatto 20. Devi fare un. Dimmi. Cioè una prova di fondamentalmente destrezza, direi. Slade of Hand. Slade of Hand. Io te la farei fare però con svantaggio. Perché sei stato tutta la notte lì e sei molto Ah, acciaccato. sicuramente a un livello di exhaustion. Non Svantaggio, vedo. 7. Più 8. Ah, Non non vedi, vuoi guardare vedo. 15. te? Ah, perché vorreste vederlo lì. Eh sì, però. Sì. Vabbè, Figo. se volete faccio duplichiamo semplicemente lo schermo. Era perché così vedevamo se c'erano anche dei commenti. Allora. Sì, rimani lì fondamentalmente. Quanto hai fatto, scusa? Ah, 7 più 8, 15, 15. ho 8. Però di poco. Sì, non riesci a liberarti. Aspetti. sì, Vabbè. tanto se non posso. Sì, dopo un po' fondamentalmente col caldo, cioè, Svengo di nuovo, sì, sei ecco. in uno stato, diciamo, di Panico. svenimento perché è veramente pesante come cosa per te. Allora, vabbè, vi svegliate anche voi e niente, c'è lui che sta cuocendo al sole, tipo mezzo moribondo. Ok, allora prendo una pentola e un mestolo e comincio a fare bang per attirare la gente del villaggio. Ok. E una volta che si è radunata, gli spiego questo mondo Oddio. Ma l'asa essere. sempre un punto ferita. Teoria sì. Sì. Lui vuol darmi 10 frustate, divertente. Ne Credo da una e lui che mi resuscita, ne da un'altra e lui mi resuscita. faccio piano. Questo immonda Scusate. Ah, scusate. creatura ha Un osato po' che. alzare le zanne, le sue luride mani Luride! contro un suo compagno di ciurma. Questo è quello che si merita chi disubbidisce al codice di condotta degli uomini di mare. Io nel frattempo passo un attimo di fianco e faccio ancora ferita. Kata dice qualcosa? No. Sto arringando la folla. 10, 15, Hai 5, tu 20. il conto? Ah, adesso sì. I nuovi del livello sono 60 di base. Ok, mi date una penna. Penna? Matita lì. Eric 60, Quake 82. 82 e io. 63. Ah sì, nel frattempo. Ah beh sì, vabbè, sì, chi se ne frega. Ma 7 più considerate. 21. Ma sì, considerate il nuovo livello, non cambia niente. Ah sì, intanto i popolani se vogliono possono lanciare addosso tutta la roba marcia che hanno uova Ah, ok, gli arringhi in verdure. questo modo. Sì, beh, direi che non hai abbastanza carisma Poi niente, una per volta che te. Niente, gli arrivano Eric a viene ferire. preso a lancio di varie Ma quindi anche oggetti, pietre, no, così. Beh, no, sostanzialmente lapidazione, che cavolo. Alimenti marci, pesci andati a male. Sì. Pezzi di idra, I resti della cena, della cena. Ma abbiamo mangiato l'idra? Sì. No, non so in realtà. Perché non abbiamo mangiato un pezzo di testa. Ma sì, non abbiamo fatto un banchetto per festeggiare. Cioè, banchetto. Mangiato qualcosa. E se lui mi fa il cura ferite mi riprendo un po'. Scusa, noi avevamo tempo fino al tramonto. Sacrifichiamolo! Mezzo, noi avevamo tempo fino al tramonto, Orlando. Per ripartire? Sì, la mattina. Quindi adesso dovete ripartire. Vabbè, ripartire, quindi dobbiamo fare in fretta. Se mi fa il cura ferite mi riprendo un po', quindi. Sì, ne sei 21. No, c'è una donna che si avvicina a te, Giulio, e ti prende un braccio e ti fa: è un segno del destino. Ecco, si diverte a fare ste cazzate. Un orso, si è trasformato in un orso e voi andrete a tala dell'orso. È un brutto segno per voi, non andate. Come si chiama? Rimanete qua. Jacopo. Dovete rimanere qui, andare via. È un segno infausto. I dei ci proteggono. Ma come potranno proteggervi? Dove andrete? Come hanno protetto voi dall'idra? No, non andate, è un segno infausto. C'è il capolillaggio che la prende da parte e fa: perdona la sua irruenza, ma lei ha spesso delle visioni. E quindi si vede che ha visto questo in questo segno. Forse fareste meglio a lasciarlo qui. Potremmo liberarlo nel bosco e lasciare che viva con i suoi simili. No, questo sarebbe male per voi. Che torni a e faccia di quella vostra cena. Non succederà più quello che è successo stanotte. Ma come potete dirlo? Perché adesso gli espieremo. Perché ora gli dei espieranno la sua colpa e la sua maledizione. Rendici testimoni. Tutti si inginocchiano. Rendici testimoni. Dopo che il mio compagno avrà eseguito la sua barbaria. Sì! frustate quindi. Dove sei la frusta tu? Qua, da qualche parte. Fattorino, appena lasciato il locale. Chi è che ha lasciato il locale? Comunque basta una cintura, non è che deve essere proprio una frusta. Ma quindi gli fai danno o no? Mentre ti muovo, purtroppo il danno, come si dice, il danno non letale non esiste. Una frusta ce l'hanno se vuoi. Va bene. Vai. La prendo. Quanto danno fa una frusta? Non lo so, adesso ci guardiamo. Di 6. Prete, un giocatore? Però uno la può usare per non causare un danno tale per cui non faccia. Come sa? Assolutamente no. Sì, è una frustata, gli fai danno. Basta. Anche con vantaggio, visto che sono legato. No, vabbè, non penso di dover tirare. No, infatti non devi tirare per colpire, tira semplicemente i danni. Anche perché se ti manca fondamentalmente fa una brutta figura, ma riprova. Stavo per dire la stessa cosa. Whip. Qual è il posto? Doppio W. Non c'è whip? Però sarà di 4. Di 4. Vai. Slashing. Vai con di 4. Slashing. Eh sì. Spazzato. Avrei detto contundente. Se no c'è il mazzafrusto. Ti cava la pelle la frusta. Hanno un mazzafrusto? No. Però la frusta sì. Vediamo sti danni. Quante frustate è degno? 10 frustate. E quindi cosa dice alla gente? È quello che succede a chi non rispetta il codice di condotta degli uomini del mare. Sì, è vero che loro vengono dal mare. Bravo, è quello intelligente. Questi sono 4, 5, ok. Quindi la schiera due volte questi. Fai per due, fai primo. Sì. Non ci metto la forza. C'è questo, se vuoi, quanti ne devi avere ancora? Altri 4. 4 sono tanti. Ah, ce l'ho io. Infatti, ce l'ho io, non so. Facciamo questo mega tiro. Quanti ne hai? Va bene, 4. Comunque, se fai un danno medio, mi uccidi comunque. Ho 20 punti. Vabbè, ma quando arrivi a, all'ultimo colpo, poi uno può deciderti di ucciderti. O di ucciderti o di renderti semplicemente incosciente. Vabbè, 6, 9, 1, basta. Vai, andiamo a vedere se tira. Bam! No, dai. Solo perché la telecamera non si capisce niente. Perché no, è il D4. Il D4 è un po' complicato. Sì. 3, 6, guarda 9, com'è bello, ha preso tutto. E 2, 11, 13 e 3, 16, 17, 18, 18 cosa. 20, 22. Si vedono, perché c'è molti non... Ah no, beh sì, ci leggono in realtà 3, 3, eccetera. Va bene, dai. Ok, 22, quindi torna a 0. Non va a meno 1. Ah beh, perfetto. Quindi qui vabbè. È abbastanza scemo perché sviene dalle, dalle ferite e adesso potrà risvegliare la sua nuova vita purificata. Ah. Ricordi quali erano i colori? Blu, rosso, viola e questo qua. Va bene, niente, l'ase è così eccetera eccetera. Ok, allora mi avvicino io. E inizio a cantilenare in gigante. Ok. E per prima cosa gli faccio un cura ferita. Non sciupare punti magia. È alle magie. Cavolo! Guarda cosa quanto ti ho curato. Quanto ti ho curato. 24, 28 più 5, 32. A come abusare di questa cosa della telecamera? Ti abbiamo fatto 50 tiri senza senso. E poi faccio dopo la punizione fisica. Adesso è il momento punizione chimica. Che lo spirito del mio compagno venga purificato e gli impongo le mani e faccio rimuovere le malizie. Io se non voglio ah vabbè, vuoi che ti rimuovi le malizie? Non si può resistere. No, però puoi tipo dire giù, puoi tipo provare a convincere giù, dice no dai, dai. Proviamo ancora. Se tu mi dici di no, io faccio finta semplicemente e gli faccio tipo un cenno, non lo fare. No, mi fai un cenno di non fare? Allora io parlo in gigante, dico qualcosa. Adesso puoi. Adesso puoi. E magari faccio un cantrip per far sembrare che ho fatto comunque qualcosa. Come fai? Cosa fai accadere? Taumaturgia. Anzi no, sparo luce che tutto il suo corpo diventa di luce. Bello. Ce l'hai tipo levitazione qualcosa? No. Scala C secondo piano. No, secondo piano. Sì, però. E secondo fate, piano. Fate entrare anche il fattorino, possiamo fare un saluto in diretta. No, È un gran personaggio questo fattorino. C'hai 10 centesimi. Ah, cavolo, è arrivato fino all'isola a portare a mangiare. Almeno è settimo livello. Classe fattorino. C'è le scale spenta. Okay. Ciao. Ciao. A voi. 9 e 10. 10. Allora, aspettate, qua c'è un euro anche. Vedi? Perché 2 euro ci riesco. euro. Perfetto, ecco, bello, guarda. Grazie ragazzi, buona serata. Grazie, buona serata, ciao. Quanti cazzo può fare un hai? Ai bei tempi spuntavano un sacco di tempi dei vapore, l'era dei vapore. Adesso invece sono stati rimpiazzati dagli Aron. Perché? Nuovo Pokémon. Allora, non ho la più pallida idea. Allora, ti consiglio di farti un po' di spazio e limitare gli spy speedrock. Recupera anche lo capofino, va bene. Patatine, quelle che ti avevo portato, non pagato, scritto così, che non è stato pagato prima, hanno anche gli scontrini in giustizia adesso. Dietro pianineria ciccio tra fame e sonno, vai. Potresti metterlo al posto della scatola per i dadi, far vedere a tutti cosa avete ordinato e fare la recensione quando l'ha mangiato. È una cosa fantastica. Allora. Qual era la tua? Quanto è che... Cata ha sbrodolato tutto. Tutta la birra. Così per la fine. Io credo crude fontina. Crude fontina ci dovrebbe esserci. Ah, questa è sicuramente mia. L'altra, boh, se vuoi c'è l'anduia, una roba strana, se vuoi smezziare. Te la farò assaggiare, secondo la reazione. Qua che vado con quella, con questa. E allora, buon appetito. Grazie. La cena di stasera è gentilmente offerta dalla pedineria da Vesti. Dai, dai i vostri soldi. E, va bene, quindi poi dopo, ok, per questa scena qua tutti rimangono. Oh sì, Gangleri si è mostrato. Gangleri è tra noi. A questo punto cosa fate? Beh, io sono ancora legato. Lo sbagliamo. mentre lo sottrego, sussurro, ti tengo d'occhio in maniera minacciose. Dai, facciamo la parte, appena prendiamo, immagino andiamo subito via, hai detto, no? Con la svastera che doveva ripartire, sì. la barca. Rientrare. Quando siamo sulla barca gli chiedo cosa è successo. Sei trasformato in un orso mannaro e mi hai attaccato. Ah, quindi erano tutti mannari l'altra volta. Ecco, è più importante. vabbè. Oh. Sì, lo sapevamo già. Bravo, potrebbe essere una cosa interessante da tenere. Dovremmo imparare a gestirla. Le so. Grandi poteri. Vedi tu, stiamo per andare su una nave piena di persone. Beh, ieri sera sarà una piena. Magari è stato quello. Sarà stato sicuramente quello, però. Dipende se pensi di riuscire. Ho visto che cioè, diciamo ho visto che al pirata piace fare molti giochi sadomaso, al massimo mi potrà legare. Io sto sentendo questa conversazione. Io credo di sì, sei tutti sulla stessa zappa. Era rivolto a te. Pensavo di avessi rimosso questa maledizione. Non hai voluto. Non hai voluto. No. Non ti hanno insegnato niente, torniamo indietro. Però aspetta, ora che ci penso, tu mi hai mezzo sbranato ieri, quindi è meglio che, che faccia qualcosa su di me per sicurezza. Faccio rimuovi maledizione su di me. Bravo, è vero. Anche perché l'hai preso, non mi ricordo. Sì, l'aveva presa. Sì. Meglio non rischiare di avere due orsi. Tutti orsi. Tana dell'orso, no? Se è una cosa controllabile, potrebbe anche essere una cosa utile per il posto dove andiamo. Beh, dopo tutto sei tu che conosci la maledizione meglio di tutti nel gruppo. Qua sembra che nessuno di voi conosca. Io sto a rimuoverlo. No, la licantropia non è... Beh, potremmo tenerla sott'occhio a vedere se troviamo qualcuno lungo la strada. Mi sa che avete già fatto i tiri per... Sì. Che ci può dare ulteriori informazioni. Tutto il prato è rimasto giù. In caso puoi sempre rimuoverlo. Beh, diciamo che... Se beccheremo un'altra luna piena sulla nave, cioè, dovrò per forza rimuoverli. Non mi ricordo. Mancavo poco, ad arrivare, mi pare. Qualche giorno, quindi. Ci sarà comunque ancora una settimana. Però no, penso che d'ora in poi io la notte prenderò delle precauzioni. Tipo gli incantesimi che posso fare. Allora, il mio parere non può che essere contrario nell'avere uno scherzo della natura tra i piedi mentre viaggiamo. Ah, tu Katta, come hai rimesso a Inspiration? L'avevo i piedi perché sono basso. L'avevo usata per convincere il tizio che era arrivato dopo l'incontro con i licantropi. Quindi non ce l'hai? No. Quindi te la prendi? Perché hai avuto hai fatto un bel... Perché mi ha frustato. Sì, io cerco di sempre di incoraggiare queste... No, scherzo. Però no, mi è piaciuto perché invece ha... è stato ligio al fatto di essere, diciamo, al codice piratesco, che per lui è importante. L'incudine, cioè, che poi l'incudine è un martello, fondamentalmente. Senza il... Ah, ok, è più la... Sì, l'altra volta avevo detto male. Avevo detto male. Ho capito, l'ho detto male io, esatto, la testa di un martello. L'ho detto male io. Beh, perfetto, ho rotto il mio vecchio martello, un nuovo martello, lo sto trovando manco. Esatto. Esatto, esatto. Però non ci avevi capito molto di quel coso, cioè avevi capito che aveva una forza, è di una pietra particolare. Avevo capito che mi aveva ributtato contro tutta l'elettricità che avevo scatenato. Vabbè, ma adesso nei giorni di viaggio mediterò insieme a questo. Ok. Rientrate la nave. Il capitano vi accoglie. Ah, giusto in tempo. Capitano. Già temevamo fosse successo qualcosa. Avete risolto il vostro dilemma esistenziale? Cazzo, non abbiamo preso la testa di un imp. Ah. Capitano, sono tornato. Farò in fretta, mi butto, cammino sull'acqua, inizio a correre. Sì, abbiamo risolto. Un villaggio era stato attaccato da un'ibra. Se volete potete averla presa la testa, se volete. Ok. C'è qualcosa. Non so se voi potete rivendere la testa di un'idra se vi serve. Sicuramente, diciamo, come si dice, il teschio ha un valore sul mercato, ce l'ha. È vostra per il disturbo. Molto gentile, molto gentile. Dov'è? Uomini, presto! Mondate questo schifo! E questo ottimo. Vuoi assaggiare un pezzo? Com'è? Non è male. Piccantissima. Picca. Però ci sta. Allora. No, era... Fondamentalmente ci sono un po' di giorni prima che voi arriviate a Tana dell'Orso. C'è qualcosa nello specifico che volete fare? Io voglio meditare dove c'è l'incudine, cercando di entrare in sintonia. Cioè dove c'è la testa e il martello, esatto, cercando di sì. entrare in sintonia. Sì. Allora, praticamente, stando a contatto col martello, ogni tanto hai come la visione, cioè proprio ogni tanto c'è dei momenti di visioni in cui vedi questa questo luogo tra le nevi dove sembrano affiorare delle pietre di colori incredibili e stranissime, che ti ricorda un po' una delle visioni che avete avuto nello scrigno. Che ti ricordi che c'è stata una parte dove... Non quella dei pirati, insomma. Sì, terminava con lui. Ok. Quella lì termina... Cioè, quella sì, dove eravate nella sua spiaggia gelata, che arrivavano tutti i pirati. Cioè, vedete in fondo queste rocce, sì. Non è come un luogo... Praticamente nella neve, cioè escono queste scorte di archi di pietra, non completi però, come delle punte di roccia, che cambiano colore a seconda della luce. E poi io ogni tanto ho anche delle visioni di, diciamo, un luogo più dentro con tutte delle pietre di vari colori con varie lucentezze. Tipo una grotta in queste visioni. Sì, in queste visioni hai c'è la sensazione che sia un luogo di grande potere. Con pietre con varie lucenti. Spero che non siano i miei occhi questa. Ciao, grazie comunque. Ok, voi? Quanti siamo sulla nave adesso? Abbiamo anche una queste visioni. Allora, vediamo qualcosa da qui. No. E poi. Giulio le ha perché sta a contatto. E poi chiedo a qualcuno. Non so se c'è un mastro d'armi, un modo per fare un manico per la testa e il martello. Ti dicono che ora sulla nave è impossibile. Però una volta arrivata nel dell'occio, sì. Presumibilmente sarà possibile farlo. Cioè, quanti siamo adesso sulla nave? Allora, sulla nave quanti siete? Mi riferisco a diciamo coloni. Allora, e sono tutte le prostitute. E ciurma. Esatto, c'è la ciurma, vabbè. Siete di coloni che devono andare al Tana dell'Orso. Siete facciamo una trentina. Quindi un bel. Allora, se, vabbè, giusto così per avere un'idea. L'idea era vabbè, facciamo una trentina. L'idea era quella di la sera, comunque immagino sia una sorta di ambiente tipo taverna. Ci sarà una roba del genere, bar, taverna, così. Siete ancora sulla nave? Sì, ci sarà comunque una sorta di salone dove si cena e si beve, no? Ah beh, sì, sotto la, come si dice? L'idea era quella di passare la sera così a fare chiacchiere con vari gruppetti. E iniziando a parlare delle varie avventure, mi volevo soffermare su quella che avevamo avuto appunto con i licantropi e tastare un po' il territorio per vedere se qualcuno poteva sapere qualcosa. Sì. Raccontando. Allora. Non ovviamente delle maledizioni cose, con la scusa di dire magari potremmo incontrare delle bestie così anche dove stiamo andando. Bla bla bla. Allora, senti varie, varie storie a riguardo. C'è chi dice che praticamente è un tipo di cosa per cui uno si trasforma e dopo vaga nei boschi assetato di sangue. C'è chi dice che da quel momento sentirà sempre tipo l'odore della carne molto più cioè l'odore del sangue molto più facilmente. C'è chi dice che in realtà alla fine è una cosa che comunque... Ti faccio un tiro per cercare di capire che le informazioni giusto, no? Non puoi saperlo, non veramente. Cioè, nel senso, sono tutte voci un po' così. Cioè, non c'è un esperto di queste cose, evidentemente. No, giusto così per sapere. Però sapere. Sono tutte voci che uno un po'... Cioè, chi dice che è una cosa che alla fine molti riescono più o meno a controllare, però comunque ti cambia un po'. Cioè, sarai sempre un po' più malvagio di quanto eri prima. Cioè, sei un po' più cattivo, si dice. Tu di quello? E c'è chi dice che solo quando c'è la luna piena non c'è si chi controlla. C'è chi dice che invece, tipo, no, dice no, no, tutte le notti mm-hmm. comunque bisogna combatterla, poi si impara a gestirla. Okay, okay, okay. Sono tante voci, okay. Però molte a riguardo. Va bene. Riferisco quanto ho saputo loro. Tutti dicono, diciamo, sul fatto che comunque si è maggiore gusto per la carne e, diciamo, in alcune situazioni cioè proprio si tende a trasformare in quasi degli animali quando si è molto affamati. E poi c'è anche chi dice che non è l'unico la carne non è l'unico appetito che aumenta, ma anche l'appetito sessuale. Dice, no, infatti, infatti in alcune isole si usa lo sperma di licantropo come afrodisiaco per aumentare le prestazioni. No, anche mangiare le palle di un licantropo può essere un ottimo. E non trasmette la licantropia. Però ti trasmette avrai una dote pazzesca, cioè le donne lo amano come... Certo, può indurre essere, anche... Potrebbe essere un buon modo per far soldi. Se la pensiamo così. Sì, grazie. Di Ok. I momenti trash ci sono. Sì. Ok, ok. E... oltre a questo, c'è un personaggio dei coloni. Sì, non è un colono, che vi incuriosisce, perché fondamentalmente è un personaggio praticamente con delle vesti anche molto ricche, tutto imbacuccato con uno strano, tipo, non so come dire, colbacco di pelli, molto, molto austero come faccia, e da quello che si dice sembra essere un bancario. No, Giulio, il mio compleanno di nuovo. Che sogno del mio vecchio PG. È curioso che ci sia un bancario fondamentalmente su questa nave in questo momento. Ma comunque, fermo un attimo, visto che mi è ricaduto l'occhio qua. Sì. Delle due cose che avevo preso degli usati magici. Sì. I guanti li metto. Ok. Il mantello, detto che era grande, visto che lui il solito tank lo lascia lui. Dico, questa qua era una delle tuniche che avevo preso. Ehi, ti ricordi che non avete trovato nulla? Che avevo preso dall'Albatros. Tu mi hai frustato, per cui mi stai simpatico. Non so esattamente cosa faccia, però per me è grande. Io dovrei accettare un dono a una creatura immonda. Passa al lato oscuro. Bah, fammi vedere sta roba, chissà da quali dita freddi. Mi hanno mai parlato della leggenda di Darth Vader. Rimango sul vago. Gli dico, me li ha valutati lo gnomo, era quello che ha ucciso la sua... Ma mi ha detto che erano cose molto prezate, quindi le ho tenute, non gliele ho vendute. Poi è morto, quindi. Però sono piccole. È morto. Cioè, l'ho ucciso. E poi. Però... È morto. Io sono momento, non lo so. Misterioso. Fulminante. Misterioso. Quindi tu non sai cosa sono per ora. A meno che non te lo dice qualcun altro, ma non so chi potrebbe. Vabbè, vedo com'è fatto. È un mantello, non è una tunica in realtà, è un mantello. Fattura è una roba infima o no pregiato. Si chiama così, scrivitelo. Of displacement. Esatto. Lo li esaminerò, grazie del pensiero. So perché non potevo usarlo io. Teddy. L'ho detto che mi dovevate chiamare Ted dopo. Va bene. Allora. E d'accordo. Volete fare qualcosa in più? Volete... No, io posso. Mi bullo con tutti no, quelli. Io ogni tanto, come al solito, faccio un giro e aiuto se qualcuno ha bisogno. Che so, qualche rimedio. Mm-hmm. Del bancario non vi interessa. Un personaggio in questa avventura no. No, però diciamo è tra virgolette strano. Cioè, io ricordo comunque che qualcuno che alcuni ubriaco ti faccio parlare. Ma non è solito magari, ma... No, io vi ricordo che comunque alcuni di voi stanno cercando qualcosa a nord, diciamo, per quale motivo lì? Appunto. È un po' strano che un bancario vada in un luogo dove non ci sono banche. Già. Dove c'è una colonia, a quanto abbiamo capito, la banca del Seme, dove c'è una colonia che a quanto pare fondamentalmente sopravvive e quello che il massimo può generare sono tipo delle pelli di animali. In teoria. Magari è qua solo perché la nave poi va dall'altra parte, però diciamo che sicuramente è curioso. Ma che ci sia un è stato che noi ricordiamo è stato caricato lì a Varca. Prima sì. Non l'hanno tanto. No, si è unito a Kafkern. Voi sì, inizialmente diciamo non... Un umano? Sì. Il capitano sa qualcosa di lui? Ah, ti dice, ah sì, fammi aprire il mio... Ah, sì, Othir. Sì, è un bancario di Aken. Cerca un passaggio verso nord. Quanto sì. Nord? È la prima volta che... Nord, ma penso che... Comunque lui ama la compagnia. Se volete potete parlare direttamente con lui se vi interessa. Vabbè, io so poco, mi ha pagato bene per un passaggio. Sei andato nella sua camera o lo stai chiedendo davanti a tutti? Durante noi, il tempo che trascorre tutte le volte che posso, diciamo. Riprendo lo scrigno a Sirron e poi quando lui se ne rende lo dico. Ok. E vi dice, io... No, fai Tiria. L'accordo che ha con me si chiama Othir Allismad. Allismad? Sì. So che è un bancario di Aken, nell'accordo che abbiamo praticamente io lo porterò a nord, arriverà a Tana dell'Orso e poi dopo diciamo ho bisogno di andare più a nord, mi deve dire lui dove e dopodiché lo andrò a riprendere, insomma. Cosa sappio? Ah no, non sono lì, niente. Però non so esattamente perché, forse è interessato, probabilmente magari interessato alla natura di questi posti, eccetera. Vuole più vedere nord se magari... Di Tana dell'Orso. Più a nord di Tana dell'Orso. Ma diciamo sulle coste, probabilmente vorrà vedere qualche bellezza locale, non so. Ma fai un tiro di... Se siamo su una nave piena insight. Di perché di quelle... Fai un tiro di insight. Ah, magari gli piacciono gli animali, no? Quelle mezzo. 11 più 4 15. Ok, allora Nasi che il capitano probabilmente o sa qualcosa in più o sospetta qualcosa, però anche probabilmente già sei fatto, cioè sai come lui si parla un po' troppo a vanvera, si è lasciato scappare qualche informazione. Immagino. Lui dice che va oltre Tana dell'Orso. Va bene, allora direi che tipo la sera cominciamo, quando si comincia a gozzovigliare e a bere, mi bullo con tutti di aver ucciso nello stesso giorno un idra e un licantropo. Un orso mannaro. Enorme! Dovrebbero aver liberato tutti. Ok. E quindi provo a prendere, se questo qua è uno di compagnia, provo a prenderlo in mezzo. Tipo, e tu che quante mostre marini hai? ucciso oggi. calamaio. Ultimamente non ne ho uccisi molti, in effetti. Ultimamente ammetto di non aver ucciso molti mostri marini. Non se ne vedono tanti. Cioè, si vedono tanti viaggiatori con storie come la tua dalle nostre parti. Certo, ma solo la mia è vera. Dicono tutti così, però. Ma la mia è vera davvero. No, ho visto la testa dell'idra. Dovete essere dei nobili guerrieri. Nobilissimi. Mm-mm. Quasi tutti almeno. Forse. Guarda che ti ho fatto un regalo. No, io non voglio aspettare ad identificarlo prima di metterlo. Vedo che alcuni di voi comunque possiedono anche oggetti, insomma, di un certo pregio. Forse siete avventurieri con un certo qual bottino, insomma, chissà quanti soldi potete. Purtroppo il bottino non è mai abbastanza. Sì. Sai, sono tanti gli avventurieri che poi questo bottino se lo giocano male, magari non riesce a bastarli per tutta la vita. È un vero peccato, perché avessero fatto dei depositi nel corso della loro vita, avrebbero potuto magari guadagnarne poi. I miei vecchi pigi. Ma che cosa vi porta a Tana dell'Orso? Che cosa andate a cercare lì? Altre avventure, altri mostri? Esattamente. Esattamente. Yar. Ho un vecchio amico molto che nobile. Vorrei rincontrare. Un vecchio amico a Tana dell'Orso, capisco. Beh, io diciamo che alla fine le cose cambiano nel corso della vita. Per degli avventurieri come voi potrebbe essere interessante l'idea di mettere magari un piccolo deposito, una banca fidata. Avviene a pensare alla pensione fin da subito. Sì, senso. E dimmi, tu stai andando in giro in un mare popolato di tagliagole a chiedergli se ti possono depositare i loro averi, i loro soldi? No, in realtà lo chiedo, è una cosa che propongo a chi penso possa essere interessato a questo affare. E chi pensi possa essere interessato a questo affare? No, in questo caso specifico voi. Ho visto che comunque avete con voi degli oggetti di valore e da quello che si dice avete effettuato molte. Siete degli avventurieri, quindi spesso gli avventurieri. Ok, ma a parte noi, in questa parte del mondo, chi ha mai queste finanze da poter investire? Perché anche noi. Questa. Diciamo che questa parte del mondo è molto, molto dinamica, un mercato molto in evoluzione. Si stanno aprendo degli sbocchi. Beh, diciamo che questa è l'apparenza, ma in realtà ci sono in atto varie cose che vanno un po' analizzate, ecco. Diciamo che tastare con mano il terreno è un'ottima idea. Tu sai cose che io non so. Le informazioni. Anche tu probabilmente saprai cose che io non so. Sì, ma tu sai cose che io voglio sapere. Che tipo di cose vorresti sapere? Quelle che la moneta sonante può comprare. Io non sono un mercante, sono un banchiere. Probabilmente neanche tanto perspicace. Nel senso, se hai voglia di sciogliere la lingua e rivelarmi le cose che tu sai, potrei essere molto generoso nei tuoi confronti. Sì, appunto per questo dicevo che non sono un mercante. Nel senso, il riserbo su alcune cose potrebbe essere di gran lunga più fruttuoso di qualche moneta d'oro adesso. Addirittura. Assolutamente. D'altra parte, diciamo, avere un potenziale cliente alleato in una determinata parte del mondo potrebbe essere qualcosa che invece può avere il suo valore, anche se andrebbe un po' analizzato. E come faccio a sapere di avere l'esclusiva in questo accordo? Che tipo? Che tu siamo facendo un doppio gioco? Beh, noi siamo una banca, quindi non esistono interessi esclusivi. Forse però ti può interessare, so che non c'entra. Guarda cosa stanno facendo. La Roma vince 3-0 col Barcellona. Spassano ora. Fresco. Assurdo. Quanto che... Ah, l'ultimo gol l'ha fatto all'82esimo. È quasi finita. Però. Quindi per chi sperava di vedersi la partita dopo aver visto Tycoon sembrare. Esatto. In molti, sicuramente tantissimi. Tantissimi, tantissimi. Però lui ti fa. Dice. No, beh, sai, non si sa mai come possono andare le cose. Questo vecchio amico di cui parlavi, chi sarebbe? Bah. Un vecchio cane d'acqua. Non dolce, no. È abbastanza salata, in realtà. E che lavora nelle navi che vanno e vengono, nel Tano dell'Orso. Tipo il capitano Tyus, intendi? O forse... Anche non penso abbia... un grado molto alto, un pochino forse è un bravo marinaio, ma non ha una particolare fama. Beh, che si aggirano in queste acque non sono tante le navi, o meglio sono tante ma non sono di tanti tipi. E tu le conosci bene? Diciamo che avrete notato anche voi determinate avvisaglie che si sono viste su questa nave nel corso del viaggio. Sicuramente, ma quindi non è la prima volta che tu vieni da queste parti. È la prima volta, ma diciamo che ero stato informato un po' della situazione. Capisco. Yar. E pensi di andare a stringere affari con le ciurme che popolano questi mari? Diciamo che in questo momento ci sono degli interessi di vario genere che avvengono in questa zona, e dove ci sono i soldi anche le banche si muovono. Indubbiamente, ma che tipo di interessi? Beh, su questo non posso dirti molto di più al momento. E se sottoscrivessi un mutuo? A tasso variabile. Bond. Diciamo che ci sono diciamo la Sara Dove non è l'unica ad avere degli interessi in questo luogo al momento. Ah, ho capito. E c'è chi può avere bisogno magari di una consulenza da parte di una banca che non sia la Sara Dove. È vero, perché tu non me l'hai detto, ma io so che tu io sei... sono un onesto bancario di Aken. Una kenyota. Una kenyota? Una mappa? Qua saliamo. No. Oh. Cosa sta succedendo? Aspetta. L'altra. Quella. Ma cos'è questa? Ah no, l'altra. Wow. Macello. Sfondo. Mappa, dettaglio, colori. Dai. Taglia il dialogo che dobbiamo andare a combattere. Aken è un'isola che non riesco a farvi vedere perché. No, ma so. Dobbiamo combattere il mostro. Fai così, grazie. Ma no, ma ce l'ho. Solo che non è questa. Era alta sotto, ma non riesco a prenderla. Eccola. No, ho messo il pacchetto nuovo, il pacco grande. Ci sono 24 passi. E basta. Più altra roba. Ecco, guarda. 1480. Eccola qua. È qua sul lato. La metà. Vabbè, adesso la vedrete anche voi piano piano. È un'isola che è sopra l'arcipelago del fuoco. Diciamo a est delle colonie. Adesso la vedete anche sulla mappa. Anche lì. Faccio un tiro di intelligenza per sapere il più possibile. Esatto. 12. È un'isola a est delle colonie. 12 e basta? Sì. Allora, sì, è un'isola lì. Praticamente è un'isola... Come si intitola oggi? Tana dell'Orso. Ah. Cosa volevi? Un titolo tipo combattere e morire? Sì. Combattere è difficile. Attacca il bancario. Però anche te appare, cioè, un bancario selvatico. Sì. Nel senso, tu che hai delle altre cose a parte combattere in teoria, no? Ma non, no, col non bancario, lì, non lì. Non, non col lì. Bancario. Non, no, capito, ma in teoria sei stato tipo... Sì, ma... Non, cioè, col le informazioni bancario che sta ottenendo lui, potenzialmente le avresti potuto tenere anche tu. Sì, ma non potenzialmente... servono. In realtà forse sì. Cioè, diciamo che è strano. L'unico a cui non frega un cazzo è un bancario, sono io. Allora, tu che missione ti hanno dato? Una volta che non c'entra con i soldi. Ti hanno detto di indagare cosa sta succedendo là. Ok, che in un posto dove non c'è in teoria nulla, se non tipo neve e delle civette delle nevi, stia andando un bancario. Non mi interessa questo. È un po' strano, cioè è una cosa, tra virgolette, un po' sospetta. Ora Giulio, che è superiore nel suo iperuranio degli dèi, magari ci sta che se ne fotta. Voi un pochino meno, secondo me, però è... Anche io sto diventando una bestia superiore. Ognuno adesso interpreta il suo personaggio come vuole. Comunque... Ci sta, non è un detective particolarmente perspicace. Sì, ma non diciamo che... Ma diciamo che non si applica più che altro. E allora una flotta di navi da guerra non mi interessa. Akeneo, quest'isola, appunto, diciamo che ovviamente è un po', potrebbe essere danneggiata nel lungo periodo dal nascere di queste colonie, perché ovviamente era comunque è una civiltà, diciamo, più evoluta di quelli che sono i popolani che avete visto, una civiltà vera. E anche più florida, ad esempio, della Libeca. E quindi è sempre stato uno snodo commerciale importante per quella parte a nord. In più c'è questa banca, che è una banca piuttosto importante. Questo tu hai sentito dire, poi non sai più di così. Che si chiama? Si chiama Banca di Aken. Anche conosciuta come banca... Cioè, gli emissari si fanno di... Si chiamano onesti bancari, considerata come banca onesta, qualunque cosa possa con l'H davanti. Ma perché sta sponsorizzando il suo lavoro? No, non c'entra un cazzo. E si dicono onesti, perché è un titolo così, probabilmente per accalappiare più clienti. Fondamentalmente tu, Carta, questo lo sai, è anche una banca. Siccome è un'isola che è statua a sé stante, non particolarmente collegata con gli altri. Paradiso fiscale. Non è un paradiso fiscale, però diciamo che è una banca a cui volentieri, se hanno bisogno, alcuni pirati più ricchi si rivolgono volentieri. Molto bene. È una banca anche per pirati, sicuramente. Perché magari, diciamo, gli altri paesi tendenzialmente cercano di evitarlo, visto che vengono saccheggiati dai pirati. Allora, Aken alla... Ma Aken magari no, proprio per questo. Da una parte e poi portano. Esatto. Dall'altra. Esatto, nulla di più normale. Beh, signor Ottir. Sì. La vedo però viaggiare da solo in queste acque. È sicuro di non avere bisogno di una guardia del corpo? Ma ho con me un paio di uomini. Al momento però riposano, non mi sento in pericolo qui. Beh, se ci dovesse avere bisogno, se i suoi uomini misteriosamente dovessero venire mangiati dagli orsi in una nave. Una cosa impossibile, vero? Ma non si sa mai. Oi, vai di sopra. Beh, sappia che può contare su di me. D'accordo. E invece riguardo a magari un piccolo deposito presso la nostra banca, non è qualcosa che potrebbe interessarvi? Non avete nulla? Beh, qual è il vostro tariffario, diciamo? Beh, penso che facciate questi servizi ovviamente gratis. No, ovviamente no, dipende un po' dagli importi. Però visto che sta andando in un luogo dove fondamentalmente eventuali ricchezze non vi saranno più di tanto utili, dove potete parlarle anche con i vostri compagni. È possibile fare, diciamo, un deposito a nome del vostro gruppo di avventurieri, o comunque magari per i contatti eventualmente poi alla prossima tornata magari mi farò vivo io un altro un altro consulente, onesto emissario. E nel caso come funziona per rintracciarvi se uno ha bisogno di voi? Dove vi si può trovare? Ma in questa parte del mondo è un po' difficile, in effetti. Dovreste recarvi ad Aachen, ma se lasciate detto a me, diciamo, di un determinato... A parte che si può già mettere qualcosa in atto, dovreste essere interessati, o eventualmente la possibilità di mettere al sicuro il vostro deposito e lasciarvi tutte le carte del caso. Quindi un cartomante. In alternativa segnalerò la cosa appunto alla mia banca, e come sapete qui i tempi sono un po' lunghi, nel senso che per tornare qua poi se ne parlerà nel prossimo anno, però ci recheremo a Tana dell'Orso e se sarete interessati potremo negoziare. Bene, la ringrazio della cortese offerta. Adesso però temo che verrà un periodo in cui avremo bisogno di liquidità. A Tana dell'Orso vedo difficile, però ogni cosa ha un prezzo. Ogni cosa ha un prezzo. Interessante, sì, è vero. E poi, ma a quanto pare lì, detto fra noi, non abbiamo delle finanze tali da... In realtà sì. Quanto avete? Io qua avrò un decennio scarso, forse nella cassa comune non avevamo schizzato, no? Sì, non ultimamente, ma una volta sì. Io ho 75 metri d'oro con scritto licantropi tra parentesi. Abbiamo delle gran pietre preziose di cui fondamentalmente non c'è facciamo. Beh, però sono molto più utili dall'oro da scambiare, quello di forse. Io non so se ho 216, 116 o 16 monete d'oro. Direi che... o 2016. No, 2016 non so. Ok. Però credo... Ma lui comunque ve l'ha proposto, dovesse interessare. Sì, lo terremo a mente. Va bene. Che non ne abbiamo. Siamo poveri. Beh, comunque 200 metri d'oro non sono pochi. Sì, è vero. Anche perché se ne avete 200 a testa, no, sono tipo 1000. Ti devi comprare una spada, già se ne vanno un po'. Sì, però voi sapete che poi a Tana dell'Orso fondamentalmente, da quello che vi hanno detto, non... baratto. Sì, che è quello che lui ti sta dicendo. E comunque vabbè, questo lui ti ha detto così. Va bene, volete fare altre cose? No. Va bene. Ok, dopo più o meno una settimana, direi, di spandare 10 giorni. Long rest. Arrivate, voi siete tanto saliti di livello. Arrivate effettivamente finalmente a Tana dell'Orso. Cerco. Per una volta abbiamo rispettato il titolo della puntata. Sì. Cerco un campanellino e lo metto al collo di Laz. Me lo faccio mettere se ce l'ha. E va bene, metti un campanellino a... Così se vai in giro la notte ti si sente. Anche in giorno. Anche di giorno. E, va bene. E arrivate alla colonia di Tana dell'Orso. È una colonia molto più piccola di Kafkern. Freddo? È freddo, sicuramente più freddo. Volevo farvi vedere. Sì, proprio una bella pelle d'orso. Se ne avessimo uno. Accidenti. Madonna, che è successo? Ale è andata impazzita. Hai detto dopo 15 giorni? Dopo una settimana. Cosa è successo? Cosa? Esplosa la mappa, non so perché. Beh, ora di cambiare il computer, Lef. Si è danneggiata. Va bene. Non è un problema. Va bene. E praticamente. Passatemi comunque la mappa. Se la metto. L'altra. Ah, quella più dettagliata. Quella è quella. Non succede un cazzo. No. No, di quella. C'è un'altra mappa ancora. Eccola. Praticamente Tana dell'Orso è dentro una specie di. Non proprio un fiordo, però una specie di baia, fondamentalmente. E che cosa notate? Allora, sono degli alberi. Allora, no, vabbè, quello è la foresta, ma comunque le distanze sono molto grandi, in realtà. E praticamente Sì, vabbè, poi va preso un po' così con grano salis, però in realtà sì. Quello che notate di questa colonia è questo. La maggior parte degli edifici, anzi tutti gli edifici, sono praticamente a un piano ed è un piano molto basso, estremamente basso. Beh, per me va bene. Mezzi sotterranei. Sì, questa è una cosa che scoprite dopo. Praticamente gli edifici, esatto, vanno sottoterra, perché d'inverno, praticamente, stando sottoterra, si è più al caldo. Quindi praticamente si sviluppa praticamente una città sotterranea. Cioè c'è un'entrata per gli edifici esterna. Però ma, sono tutti cunicoli. Esatto, sotto sono collegati dai vari cunicoli. C'è però una torre. Ci sono due torri. Una la vedete in lontananza dall'altra parte della baia, sembra mezza diroccata, e un'altra, non in particolari buone condizioni, torre bruciata, tu dici. Dall'altra parte della baia, sì. Uh-huh. E poi in realtà ce n'è un'altra, un piccolo torrioncello, sempre lì vicino, poco lontano dal villaggio, diciamo c'è il porto, poi diciamo da dove siete arrivati voi, dal mare, diciamo... tende a salire un po' tipo scogliera e creando una specie di piccolo promontorio dove c'è questa torre con un piccolo edificio che però è staccato dal resto del villaggio. In linea di massima vi sembra un posto estremamente aspro e spartano. Non c'è tanta gente, venite accolti fondamentalmente dal capo della colonia, che è questo Volmer. Esatto, è il capo della colonna di Tana dell'Orso. Umano. Eh? Umano. Umano, tutti umani. Perché? Mi sono un po' contrariato, perché è una città che si sviluppa sotto la terra, non sotto il cielo. Che cosa? il dio delle tempeste. Sono in chierico di vedere le tempeste. Tenendo le tempeste. Appunto, non dovrebbero. Dovremmo. Cioè, allora, gioire realtà, quando una tempesta li colpisce. I non tantissimi coloni di Tana dell'Orso sono tutti uomini, fondamentalmente. Non ci sono donne, come vi è stato detto. E sono particolarmente esaltati dal fatto che arrivi la nave delle Baldracche. Perché finalmente. Poi scendiamo noi. Esatto. E mentre si crea una specie di parapiglia perché c'è chi vuole già salire eccetera eccetera tra i nuovi coloni, Volmer vi dà il benvenuto nella colonia. È un uomo abbastanza in là con l'età, vissuto, pieno di cicatrici eccetera, un'aria però insomma comunque di grande carisma. Da quello che avete appreso anche nel vostro viaggio è detto il vecchio orso. Probabilmente. Io sono un orsetto. E tu sei un orsetto. Benvenuti allora, benvenuti a Tana dell'Orso. Questo non è un posto per bambini e per fanciulli. Questo è un posto per uomini. Arr! Uomini veri. Uomini veri. E qua non troverete gli agi delle terre da cui siete venuti, da cui forse siete anche fuggiti. Troverete solo duro lavoro, ma se darete tutto voi stessi riuscirete a fare parte di questa comunità e a sopravvivere. Qua, quando cala la notte, cala l'inverno, non si scherza. Bisogna essere tutti uniti e lavorare. Soprattutto lavorare molto nei mesi in cui è possibile farlo. Quindi adesso che siete appena arrivati dovrete subito molto da fare, dovrete imparare tutto con molta velocità. Se avete qualche abilità particolare fatela sapere a me o al mio braccio destro, il capo ranger Derrick. Eccolo Derrick. O al mio braccio destro, ah. Lo chiamo Derrick. Derrick, ciao. Ah. Come Darrick in realtà. E dovete fidarvi di lui, è un uomo di grande conoscenza. Questa colonia è stata rifondata più volte perché sono stati commessi degli errori in passato. Ho visto di ferita prima. Sono stati commessi degli errori in passato, errori che noi non ripeteremo. Questa colonia diventerà sempre più popolosa. Ora siete arrivati in 30, siete tanti. Questo sono arrivate le baldracche. Siete tanti, la nostra popolazione aumenta nettamente e quindi avremo bisogno di più cibo per superare l'inverno. E quindi sta a ognuno di voi dare il proprio contributo, perché solo insieme potremo superarlo. Vedrete che ci sarà molto un motivatore che basta. È il capo della colonia, quindi sì. Detto questo, vi mostreranno i vostri nuovi alloggi e dopodiché venite, raccoglietevi, che darò i primi compiti e cercherò di capire che cosa fa ognuno di voi, anche se più o meno qualcosa mi è già stato inviato, adesso controlleremo, insomma. Vi vengono mostrati appunto le nuove cioè dove alloggiate. Sono appunto, vedete com'è strutturata appunto la città, come vi dicevo, sono appunto degli edifici, si entra praticamente la porta da, esatto, va, la scala va giù e sono in queste, esatto, sale dalla latrina, perché si entra dalla latrina, perché immagino che sotto non ci siano, sotto sulle latrine, ottima cosa, altrimenti si morirebbero tutti dal tanfo. No, ovviamente. No, beh, le latrine si fanno fuori, ci sono alcuni punti. Quindi, sì, magari hanno scavato abbastanza a fondo a trovare tipo una cosa sotterranea, un canale sotterraneo. Quanto fondo? No, qui non va tanto giù. È tutto collegato sotto? O su una, allora, praticamente sono queste case che... sai che bello? Praticamente, da come ho capito, non esisti con la latrina. Hanno fatto la latrina vicino, uno pianta un quadro e si trova... No, è questa. La latrina è Needful Eight. In inverno devi uscire tutto in cordone. Ma allora, latrine direi che sicuramente non ce le ha ogni edificio. Secondo me saranno degli edifici che saranno adibiti a latrine e daranno fuori. Direi che è la cosa più sensata. E alla fine non è che sono degli alloggi, ma non è che sono porte che si chiudono a chiave, eccetera, fondamentalmente. E poi sotto, cioè praticamente entrate dalla porta, praticamente si va subito giù, ci sono un paio di livelli. Ah, bene. E sì, da in cui si va giù però. No, cazzo. E poi ci sono, ho provato. E appunto ci sono appunto i vari giacigli, eccetera. Sale. E questi camini, dei camini che appunto li avete visti anche da fuori, immagino, condotti di aerazione. E poi, tipo il tutti ingegneri, devi fare un buco altrimenti non respiri. Vabbè, ci sono i camini fondamentalmente. E poi praticamente c'è una porta giù. Dove sono le mostre? Dove, cioè da dove poi vai in cunicoli, poi ci sono altri locali. Tramite questi cunicoli raggiungi gli altri locali. Okay. Che d'estate si possono raggiungere anche sopra, però d'inverno si cammina dentro, si sta praticamente sempre dentro in linea di massima. E cioè, ormai siamo a... No, in realtà adesso voi siete praticamente a inizio dell'estate. Siete arrivati a inizio dell'estate, quindi c'è, cioè, la breve estate che dura tipo un mese, e poi piano piano comincerà a far freddo. Però questa è, diciamo, il periodo in cui si lavora di più, siete quasi inizio estate. Ottimo. Bene, allora direi che almeno io faccio intendere di essere disponibile a mettere a disposizione le mie doti di cacciatore per la comunità. Sì. E Volmer vi incontra anche a voi, diciamo, ho sentito parlare di voi come gruppo, mi ha detto cose molto... Capitano Taius ha speso parole al miele per voi. Ecco, noi qua di miele non ne abbiamo tendenzialmente. No, gli orsetti cosa mangiano? Che goloso. O comunque ne abbiamo poco. Ma ne abbiamo poco. C'è bisogno sicuramente di uomini come voi in questi luoghi e anche di non uomini come voi. Avrei da chiedervi subito una cosa, in realtà, se penso che voi possiate essere le persone giuste e voglio vedere anche un po', insomma, come lavorate. Non penso che voi abbiate bisogno di imparare a tagliare la legna, eccetera. Avete visto la torre dall'altro lato della baia, no? Sembra un luogo molto affascinante. Sembra anche un luogo molto scuro. Molto abbandonato. Sì. Ci sono queste torri, le avete viste magari qualcuna anche lungo la costa. Fondamentalmente erano torri che edificavano i pirati per come basi in passato, insomma, e sia come basi ma anche in alcuni casi per attirare le navi, facendo come se fossero dei fari, e in realtà le facevano incagliare per poi depredarle. Ad ogni modo, noi abbiamo la torre qua, che adesso stiamo cercando di risistemare. Vabbè, vedrete anche voi il perché più avanti, non è importante adesso. L'altra torre comunque è distante da qui, tendenzialmente in un giorno dovreste essere lì, però sembra che ci siano strani movimenti. Tutti i coloni che si sono recati in quella zona sono rimasti molto spaventati da delle presenze oscure. Io onestamente non saprei dirvi, potrebbe essere un covo di qualche pirata o qualche farabutto che si è insediato lì, o magari qualcosa di un po' più oscuro, perché non vi nasconderò che comunque in questa parte del mondo le leggende spesso sono anche in parte vere, insomma. Per cui volevo sapere, insomma, se poteva essere qualcosa che poteva fare al caso vostro, magari andare lì e controllare. Ad una condizione. Già mettiamo delle condizioni, sentiamo pure. Ogni servizio ha un prezzo, i servizi di una qualità elevata hanno un prezzo più elevato. Qua siamo una comunità, mi dica comunque. Che se una volta che quella torre verrà liberata potrà essere usata come base da me e dai miei uomini. E mi sembra una cosa eccessivamente scomoda per voi. Che lui va alla torre. Potrebbe essere, ma è una fottuta torre. Cioè, nel senso, comunque è lontano, cioè non è senso, tipo a un giorno da qua, tipo prendendo una barchetta ci arrivi in un giorno. Ok, però vuoi andare via dalla comunità appena arrivato? Voglio la mia torre. Cioè io, guarda, avete degli interessi in quella torre? Ora come ora no, ma se tu hai ragione. No, lo voglio io. Io ho bisogno che voi siate comunque nella comunità. E secondo, cioè, se voi starete lì durante l'inverno, no, morirete. Lì. Per avere un appoggio. Una parte. La sua stanza privata, il suo attico, vuole da dove fare gli arro sul mare. Non saprei come descriverlo. Forse vuole i diritti terrieri su quella zona. No. Questi purtroppo non li posso concedere io. Per me ci puoi anche stare, però il discorso è che io ho bisogno che voi siate qua. Non è che io dispongo dei terreni di questa parte del mondo. Possiamo da quelle terre di poter disporre della torre se ne abbiamo bisogno. Se ci vuole, sì, nel senso. Posso tenerci delle cose. Se volete lasciarci delle cose, questo sta a voi. Io non ve lo consiglio. Vabbè, è molto malfamato quel luogo. Non è che è malfamato, però nel senso. È un po' terra, cioè, di come nessuno. Vedete voi? Sì, vedete voi. Io nel senso. Dovremmo strutturarla, mettere gli incantesimi di protezione. Sicuramente io non posso Fattore del mago. Cioè, non vi posso dare autorizzazione a, diciamo, rivendicarla, nel senso che io non sono il capo di questa colonia, ma non sono il re della Saradovia. Cioè, questa in teoria sono terre. Perché è stata edificata quella torre? Quella torre lì. Ma basta. O sarà stata o edificata dai pirati oppure dai popoli che erano qua prima. Te la puoi prendere? Andiamo, dopo mettiamo un cartello davanti alla porta. Se volete lasciarci le cose, fatelo. Però tenete presente che è facile che poi della gente. Io non ci vada. Più semplice. C'è un armaiolo in questa città. Sì. Non qua dopo indicare. Certo. E io invece vado in bagno appena finito. No, non puoi. Sono certo campanellino. Sì, ho il campanello. Te l'ho fatto mettere. Quindi posso contare su voi tre per questa missione? Assolutamente. Anche sugli altri nostri amici. Chi? Che dove? Si nascondono bene a volte. Ah, sì, no. Philip, Longkeeper, l'ha richiesto al momento il capo ranger, ha bisogno di parlare con lui su alcune missioni possibili. Sì, non è necessario che andiate tutti, potete andare anche voi tre. Sì, dai. Tanto ancora si tempo oggi, no? Va bene. Allora vado un attimo in bagno, però. No, davvero, non sto scherzando. Devi passare. No, non io persona, io personaggio. Ok. Ah, vai nella trina. Okay. Va bene. Vuoi descriverci la scena? Sì, posso fare degli spoiler? Sì. Sì? Cioè, non è solo spoiler, cioè, qui non ci sono... Poi ognuno c'ha la sua missione, ma non è... chiudo la latrina. Sì. Basta, tiro fuori l'orb. Sì? Pronto, Ema? Ah, no, volevo dire... Ho detto posso fare spoiler. Ciao, questo spoiler l'avevo già intuito. Devo mandarti questo audio per dirti che sono felice. Sì, l'ho contato e gli dico: sono arrivato a Tonnello dell'Orso. Qualche ulteriore informazione su dove muoversi? Sei tu che devi indagare. No, sulle zone nord, sud. Io so che a nord di Tana dell'Orso, cioè quello che ti avevo detto, come a nord. Non mi ricordavo, gliel'ho dovuto richiedere, scusa. A nord di Tana dell'Orso ci sono dei movimenti strani su cui indagare. Prova a vedere in zona se magari quelli della comunità sanno qualcosa. Va bene. Però fallo in modo molto discreto, il mio consiglio. Non sappiamo lì. Scusate, a nord di qua. Non sappiamo veramente. Non sappiamo veramente chi comanda lì. Sì. Nelle prossime settimane farò sapere. Noi, tra breve. Esatto. A breve dovremo avere una torre di controllo. No, non glielo dico. Per gli aerei. L'ho visto. Roger. Ok. Mi riallaccio i pantaloni e esco. 5. Perché comunque avevo... Sono felice. Ho approfittato. Comunque vedo che nonostante l'altezza, complimenti, insomma. Peccato che a Tana dell'Orso ci sia poca. Ah, potrei chiedere. Aspetta, no, però aspetta, roba seria. Riaccendi. Gli chiedo non c'è tempo, prepuzio. Cosa? Perché mi fai questa domanda? Perché potrei aver intrapreso un percorso alternativo. Definisci percorso alternativo? Sono stato morso. Potrebbe e non ho intenzione di farmi curare. È meglio se ti fai curare. Se puoi. Poi c'è qualcuno che ti può curare? No. Okay. Però da quello che sembrava che tu avessi detto, sembrava che ci fosse qualcuno. No, faccio un tiro. Posso, è un NPC, dai. Il maestro. Come minimo non ce la prego. Faccio. Aspetta, Deception. Sì. Ma guarda quanto avevo. 24. Sarà. Vabbè. E... vabbè. Allora, vabbè, non ti preoccupare. Quindi si è già manifestato, immagino. Sì. E sei riuscito comunque a arrivare. Sei riuscito in qualche modo a controllarla o... No, sono stato abbattuto nel vero senso della parola. Ok. E allora... tendenzialmente ne si manifesterà all'inizio quando c'è il plenilunio, eccetera. Adesso andrete in un... ci sarà sempre meno durata comunque per la notte, nel vostro caso. Diciamo che quando c'è la luna potresti quando vedi comunque la luna potresti essere sottoposto a stress, cioè nel senso se c'è il plenilunio allora proprio lo sentirai e ti chiamerà e dovrai cercare di resistere. Poi in realtà è una cosa che si può combattere un po'. C'è qualche modo per riuscire o agevolare la cosa? Com'era in Vampire Diaries? C'era la verbena, però era per i vampiri. Sì, c'era qualcosa. Una bella donna per il vampiro. Esatto, bravo Katta, bravo. Allora, sicuramente ti possono aiutare alcune erbe. Casualmente ho un involucro di erbe, quello che avevo preso al piccolo. Dopo vediamo cosa c'è. Allora. Al piccolo. Sempre al... sempre all'ognomola. Anche io avevo pensato al piccolo. Al piccolo, c'è cioè in questa avventura. Ok. È ovunque, E arriva Peter. Peter, il grande stregone. Ciao, Peter. Allora. Mm-hmm. Allora, recupera, sì, la bella donna... vabbè, adesso cerca magari qua qualcuno. Sono tutti maschi. Ciao, ciao. Fottiti allora. Click. molto simpatico, sì. Oggettivamente simpatico. E cerca di scoprire, appunto, trovare questa erba e farti degli infusi quando arriverà la luna piena per cercare di, diciamo, sedarla un po'. È una cosa che potrebbe farti anche molto male all'inizio. Magari fatti legare quando ci sarà la luna piena. Tieni presente che ti si può manifestare anche se proprio vedi la luna in giorni che non è la luna piena. Poi piano piano dovresti riuscire un pochino di più a controllarla. Però in generale quello che io ti consiglio è farti legare quando possibile. E poi ovviamente sta a te un po' combatterla, eccetera. Tieni presente che a livello di... Cioè, avrai sicuramente dei sensi più acuti per quanto riguarda l'odore del sangue, eccetera. Però potrai anche avere degli impulsi, diciamo, violenti, anche in forma normale. Dovrai cercare di contrastarli. Se poi trovi qualcuno che in qualche modo ti può guarire, fallo. Va bene. Poi fammi sapere, insomma. È un po' un problema. Ma come l'hai contratto? Come sei stato morso da qualcuno nel corso del viaggio? Sì. Ok. E l'altra cosa importante... Non mordere nessuno. Esatto. Se riesci comunque a controllare, ricordati di non mordere nessuno. Va bene. Ci sentiamo nella prossima settimana. Sì, fammi sapere, indaga, mi raccomando, cerca di stare... molto attento perché non sappiamo chi comanda davvero lì. Il capo villaggio sembra sapere il fatto suo. Vedremo. Sì, può essere, non lo so, non conosco. Va bene. Oggettivamente. Si chiude così la chiamata. E la suoneria. Ok. Va bene. Devo fare un tiro su in intelligenza per vedere se conosco già la bella donna come pianta. L'ho mai vista. Natura, vai. Un erborista. Conoscenza, sì, sì. Natura. Avete visto che ho il pacchetto qua. Vediamo se c'è dentro. Natura mi sa che ho 0. 0. 11. Ma non sai veramente qual è. Potrebbe, cioè, se, forse una è quella, ma non sei sicuro. Potrebbe essere quella. Potrebbe essere. Va bene. Ma dove, allora, avevi preso queste ad altizio? Mi pare le avesse un gnomo. Sempre lì. Io ho scritto solo involucro erbe, non ho scritto da chi. Ok. Quindi, forse, però non sei sicuro. Allora, appena ci rivediamo, lascio l'involucro a lui, visto che non gli avevo dato, a quanto pare, se sono scritto io. Mm-hmm. E gli dico le cose che ho saputo. Ok. Da chi l'hai saputa? Ero in bagno. La spia perfetta. E ti è venuto un'epifania. Un giorno dovremmo fare una lunga conversazione. La cioè, spia però perfetta. Va bene. Ho saputo da uno stronzo. Le chiacchiere della cessia muro che sei lì. Tu prenditi le tue erbe e ringrazio. Che devo fare delle cose per te con quelle erbe. Quel tubo di erbe. Ci sarà anche qualcos'altro che può essere utile a te. Ciao, guardi erbe. Allora, tra queste erbe non c'è la bella donna. Però è un insieme di erbe che probabilmente hanno delle proprietà allucinogene. Si sa mai. Io nel mio kit da erborista ce l'ho una bella donna. No, se non c'è comunque. Sì. Vabbè. Perché no? Un po' sì. Se no guardiamo anche se c'è. Ma dove cresce la bella donna? Esatto, un qualcosa qua. Pianta. Ah sì, perché in effetti se cerchi bella donna su internet i primi risultati non sono una pianta. Non so, bella donna attaccata potrebbe venire. Ma forse sì, in realtà. Habitat. Zone montane e submontane, fino all'altitudine di 1400 metri, precisi sui i margini dei boschi, freschi e ombrosi. Quindi direi che... In estate qua ci può anche stare. Ci può stare, visto che c'è un bosco vicino, che ci possa essere. Quindi lui la conosce, se dovessimo vederla per terra. Sì, si può trovare qua. Che culo. Anche se poi qua siamo quasi nella tunda, però abbiamo fatto anche la foresta, quindi ci sarà. Foresta forse un po' più calda. Io invece vado, prima di andare dalla torre, vado dal mastellaio. Ok. E gli chiedo se può farmi un manico per il martello. Ah, questi nuovi coloni arrivano subito con delle grandi esigenze. Va bene, sì, te lo farò. Che cosa mi puoi dare in cambio? Cosa ti serve? Che cosa mi puoi proporre? Stiamo andando verso nord, ti serve qualcosa magari a nord? Magari hai portato qualcosa dalle terre del sud, qualcosa che non si trova qua. Qualche... Posso scrivere per te? No, aspetta. Magari del buon vino? Del buon vino? No. Purtroppo. Della birra? Delle erbe speciali. Erbe speciali. Io non me ne faccio nulla. Ho un crossbow, se vuoi vedere quello lì. Delle erbe speciali. Che cosa farebbero esattamente queste erbe? Alleviano le giornate faticose. Ah sì? Le mie erbe. Io preferivo del vino. Non hai del vino? Non è detto che non posso estrarre e ricavarci qualche infuso alcolico particolare. Che come funzionerebbero queste erbe esattamente? Non so. Le fumi. Le fumi. Una pipa. Quindi le devo mettere nella pipa. Sì. E poi posso fumare. Ma magari fatti fare il manico prima di fumarle. Avete bisogno dei servizi di un dottore, un medico? Avete. Vabbè, dai, fammi. Vabbè, dai. Perché no, in fondo non c'è niente. Proponigli sperma di litantropo. Meglio. Niente, va bene. Abbiamo... Va bene, ti prendo queste erbe allora. Abbiamo una miniera d'oro per le mani. Spero che non muoia. Beh, è stato molto breve segnarmi queste erbe. Lasmi da qualcosa, diamolo via. Mi serviva il martello, non ce l'ho più. Va bene. Vabbè, immagino che gli sarà del tempo nel frattempo. Sì. Va bene, partiamo. Sì, ah, bello questo. Dove l'hai trovato? È stato un dono recente. Non ho mai visto una pietra di questo. Cioè, proprio una pietra, sembrerebbe. Sì, neanche io l'avevo visto prima. Ci vorrà un molto, insomma, un manico molto, molto potente. Sei sicuro di riuscire a sollevarlo poi? C'è un vecchietto. Se c'è qualcosa di pesante lì, lo... cieco e sordo. Sembra che tu sia molto forte. Va bene. Attrezzatura per scalare ce l'abbiamo già, la dobbiamo comprare. Poi dico, non avete i qualcosa pack? Sì, io ho il priest pack. Io non l'avete comprato questa roba? No, io non mi ricordo. Comunque quando gli sollevo il coso, sì, faccio, nella gente spesso c'è più di quel che sembra. Sì. Thunderwave! Vabbè, ma dai, non dovremmo scalare nulla. Cosa sai? La buchiamo giù al massimo. Esatto. Poi la ricostruiamo perché la vuoi. Come la vogliamo noi. Tanto dobbiamo ricostruirla uguale, perché torre bruciata non è che... No. Dici per buttarla giù, sì, effettivamente è una bella cosa. Richiamo il mio seguito. Basta, ormai si rifiuterà per tutte le volte una scena. Allora, ritorna ed è super spaventato, si nasconde subito dietro le tue gambe. Lo tranquillizzo. No, ancora no! Basta, ti prego! Questo mondo è sbagliato! Questa è la volta buona! Questo mondo è sbagliato! Questo mondo è sbagliato! Ma insieme lo raddrizzeremo. Panca bestia. Va bene, quindi prendete la barca e vi apropi in quattro. Qui posso usare le mie abilità di navigatore? Sì, mostracele. Girare a destra. Che non ho tipo mai usato in tutta la campagna, nonostante sia un marinaio. Beh, dopo tutto sarei in campagna. Vi danno una piccola imbarcazione. Vi dicono che praticamente c'è una... con questa imbarcazione dovresti avere troppi problemi. Non ci sono gli squaletti, vero? Eh? No, ci sono gli squaloni. Nella baia? Ma può essere che ci sia magari qualche orca. Però, miseria. Però un marinaio così abile sicuramente non avrà problemi. Vabbè, ma se fai... se costeggi, la puoi far dritto. Le orche vanno a mangiare le foche a riva, praticamente. Se una foca, no. Beh, sono un orsetto. Comunque alla base la torre è su questo promontorio. Alla base c'è questa scogliera, però c'è un piccolo anfratto, tipo piccola spiaggia dove potete lasciare l'imbarcazione. Un'imbarcazione più grossa non riuscirebbe a arrivarci perché comunque rischierebbe di incagliarsi sugli scogli, ma con questa dovreste riuscire. Okay. Poi dovrete un po' scalare per arrivare su. Ci arriviamo di giorno, saremo avvistati da un eventuale occupante della torre da molto lontano. A voi tutte le precauzioni del caso. Ma che te frega tanto. Solo dobbiamo buttare giù. Non arriviamo, la buttiamo giù e chi c'è dentro se dentro. Beh sì, è una torre di avvistamento. Non so, magari posso fare nebbia davanti a noi. O magari andare al mattino quando c'è la nebbia. Davanti a... Ah, davanti, ok. Avanti. Alle prime luci dell'alba, in modo da coprire la nostra... Sì, comunque un giorno ce la dovete mettere per arrivare. Ok. Una nube nera si sta avvicinando! Non è nera, non è nebbia. Se... Siete presente che ormai le notti non sono così, non sono molto corte ormai qua. Parliamo, okay. Saranno di 4 ore. Se ci vuole una giornata completa, se parto al mattino presto, arrivo al mattino presto. Vuoi tirare un dado o no? Che dado devo tirare? Ah, non so, pensavo che dovessi fare survival. Ok. No, volevo prima sapere se il mio discorso aveva senso. Non si vede quanto ho fatto. Ho fatto 10. Se posso utilizzare la mia proficiency in quanto ho la competenza nel veicoli ad acqua. Sì, certo. E quindi diventa un 15. 72. 72. Sì, sì. È una barca volante. Porti la barca con tranquillità oltre la baia. Siete ormai in prossimità di questo luogo che avete capito dov'è, dell'anfratto. Il giorno dopo, ovviamente. Siamo riusciti ad avvicinarci in mezzo alla nebbia mattutina. Vuoi la nebbia mattutina? Altrimenti non mi avvicino. Tanto ti fa vedere comunque dai, anche se c'è la nebbia. Va bene, c'era un nebbia mattutina, quindi c'è uno svantaggio. Esatto. No, va bene. C'è un po' di foschia, sì. Va bene, però riesci comunque a vedere. Attacchiamo. Ok, siete su questa piccola spiaggia. È una spiaggia di sassi fondamentalmente. Da sopra di voi c'è questa, appunto, questa scogliera sopra la quale vedete sopra un parte la torre. Mi fate tutti un survival. Perché? Sono il master. 12 di Giulio. Cos'è survival? Wisdom. 17. Anzi, no, fatemelo su Perception, scusa. Oh. 17. Ok. O Survival, scegliete voi. 17 comunque. Vado io. 9. 4 più 5, 9. 6 di carta. Più 4, 10. Ok. Arian, ti rendi conto che, un po' nascosto, sul lato, c'è una sorta di sentiero, tipo scalinata, che renderebbe la salita più nettamente più agevole che scalare in modo verticale. Secondo me l'unico modo è scalare in modo verticale. Fuoco! E ora non c'è più. Cosa fate? Beh, il nostro avventuriero dovrebbe andare avanti. Anche tu sei un avventuriero. No, no. Cosa sei? Un orso? E va bene, apro la fila. Cosa fa il master? Io sto un attimo lì a guardare in alto così. Mentre loro si aprono in conosca. Ok. Ma quindi avete gli arnesi di scala? Sì. No, andiamo su per sto scalinato, ce lo dici, no? No, per ora no. Avete gli arnesi di scalinato? Sì, se sono nell'Explorer Pack andiamo. Ok, va bene. D'accordo. E vi accingete a scalare. Chissà se me l'avevo scritto la cosa di scalare, ancora no, non ce l'ho detto. Come si fa? Scalare velocità fratto 2. E però non mi sono scritto altro. E quindi direi che fate delle prove e scalare. E sotto cos'è? Avete gli arnesi, quindi avrete un vantaggio. O athletics o. Vai. Acrobatics. Sì. Ci sta. 20. Saltando 20. Da un fratto ad un fratto. Vai. 4 che non vedo col dado. 14 strano. E 2. Più quindi 14. 8. Ok. Con acrobatics, quindi come fai? Se lui è davanti a me, cosa hai messo? Dei tipo dei chiodi da scalata? Sì. Allora salto da chiodo a chiodo, mi aggrappo di qua e di là. Ok, sfruttando anche un po' i massi. Quindi adesso voi avete fatto 15 piedi. Io di meno. Vado un po' vabbè, meno di lui. Questa prova vale per la scalata fondamentalmente, quindi riuscite. Vabbè, quando hanno fatto tipo un paio di metri va. Ah! C'è un sentiero! Come c'è il sentiero? Vecchio passo! E mi dirigo verso il sentiero. Vabbè, ormai finiamo la scalata. Cioè, non ha senso tornare su. Quanto dura ancora? Cazzo, no, scusa. Quanto è alta? È abbastanza alta. Allora fa culo. Saranno. Maledetto vecchio. Fai un 5-6 metri. Allora i ciechi siete sempre voi, io l'ho visto il sentiero. Fai un 10 metri. Finiamo. Io scendo, se vuoi proseguire, fai pure. Visto che deve scendere da davanti a me, scendo anch'io. Ok. Il sentiero di Giulio è comunque abbastanza impervio, richiede tempo per essere comunque percorso. Il sentiero di Giulio è già diventato la torre di Cat e il sentiero di Giulio e via. Il sentiero di Giulio è la torre di Cat. Dalla spiaggia di Cat. Scusatemi, i miei occhi non sono più quelli di una volta. È la spiaggia di Cat, è la barca di Cat. Per quanto sia meno cieco di voi, il sentiero di Giulio, l'orticello dell'orso e la torre di Cat. Quindi devi vedere tu cosa puoi vedere. Può essere tipo la scalata di Laz, se vuoi. Va bene, quindi ok. Arrivate fino alla sommità e avete davanti a voi questa torre in rovine. La parte superiore è praticamente crollata, ne rimane solo una piccola parte, come diciamo del cerchio. Per caso somiglia alla torre della visione dei pirati? Assomiglia alla visione dei pirati? No. Perché quella della visione dei pirati era una torre in realtà integra. Era integra. Sembrava molto vecchia e non particolarmente in buono stato, ma integra comunque. Questa invece chiaramente è molto in rovina e mezza distrutta. Se è stato per un incendio, ora come ora è difficile da stabilire, perché comunque i muschi coprono buona parte della struttura. Ci sono tracce per terra? Ci sono tracce per terra. Il cane. Usa il cane. E poi a che pro? Cosa vedi? Cosa vedi? Cosa senti? Cosa senti il cane? Parte l'odore del muschio. Allora, tracce per terra. Scusa, questo cane l'ho evocato per? Così, era compagnia. Ah, ok. Era mascotte. Ciao, cagnolo. Ora come ora non vedi delle tracce. A posto. Siete all'ingresso, che praticamente... Sì, praticamente una... diciamo, una sorta di portone, in parte crollato... c'è ancora, è rimasto lì qualche pezzo di legno, però ormai veramente ai limiti della sopravvivenza. Sembra che qua non ci abiti anima viva da tempo immemore. Ci ha mandato a fare una cosa inutile, lo sapevo. E non c'è un cazzo. Questa uscita mi piace, ok. Questa è la tua torre adesso. Hai ragione. Beh, andiamo a vedere se c'è qualcosa dentro. Tu per primo hai avuto l'idea di lasciare qualcosa dentro la torre, magari qualcuno ha avuto la stessa idea. Andiamo a verificare. Osservo la porta. I menti brillanti pensano tutti la stessa cosa. Caramella di cui mi sa. Osservi la porta. Ah, la porta è... cioè, non c'è praticamente. Potete entrare. Osservo l'ingresso. Sì. C'è un... Se è mezzo diroccata, sarà illuminata dentro, immagino, un po'. Un po' il sole, sì, comunque si vede che dentro c'è questa sala. Sembra totalmente vuota. Un po' di macerie in giro, una scalinata che sembra comunque ancora diciamo il pavimento di che cos'è al piano terra? Pietra. E ovviamente un po' di piante sono cresciute. In generale la sensazione di un luogo molto oscuro e abbandonato. E c'è una scalinata di pietra che prosegue su, anche se diciamo un po' farraginosamente, perché alcuni scalini sono crollati, però ha resistito e prosegue appunto sempre verso un altro piano. Quindi sopra di noi il pavimento del piano di sopra, quindi il tetto di dove siamo noi è integro, ci sono i buchi. Parzialmente. Quindi si può vedere da basso verso l'alto e viceversa. Attraverso questo. Puoi vedere qualche buco, non vedi esattamente cosa c'è sopra naturalmente. No, chiaro. Però da sopra invece. Sì, cioè la torre è, diciamo, allora, la parte diciamo base più o meno, anche con dei crolli, è riuscita a resistere. Poi la parte sopra, evidentemente, è un po' crollata e c'è sono anche delle macerie, diciamo, fuori dalla torre, ovviamente, no? E per cui presumibilmente sopra a un certo punto o la scalinata non riuscirà più a salire o comunque ci saranno i piani praticamente all'aperto. Però diciamo la prima parte, non che sia una torre particolarmente alta, però in linea di massima comunque ha resistito, cioè è ancora integra, anche se ovviamente un qualche pezzo di diciamo è caduto giù eccetera, per cui qualche buco sì sopra c'è, però in linea di massima comunque anche sopra dovrebbe esserci, c'è questa scalinata che va da su. Oggetti, c'è qualcosa che non siano pietre, baule, travi o... A parte 800.000 monete d'oro davanti a voi accumulate, no? Però mi hai detto che non mi interessa fare accordi con i banchieri, esatto. No, scherzo. E, no, qui non c'è nulla, cioè sembra totalmente deserto. Saliamo, dai, almeno se lo sbrighiamo. Da un occhio nel, se c'è qualcosa nel sottoscala, cioè sì. Cioè, la scala è di pietra. Sì. È piena. Cioè va tipo lungo il lato della torre. Ok. Quindi prosegue, cioè fa diciamo il semicerchio e poi a un certo punto ha l'apertura per andare al piano superiore. Mm-hmm. Capito? Sì. E provo a bussare nel sottoscala, contro la parete del sottoscala per sentire se è pieno o vuoto. Cioè vuoi capire se può reggere o meno? Sì. Sembrerebbe di sì. Va bene. Quanto hai in architettura, ci possiamo fidare? Non abbastanza. Un pirata sarà. Però meno. Questa nave non ha la vela. La scala è solida. Puoi andare a vedere cosa c'è più avanti. Per forza che è rimasta qui. Salgo, sì, dai. Sali su. Mm-hmm. Mm-hmm. Allora. E al piano superiore faccio un perception. Non importa perché muori. No, praticamente c'è anche una finestra semicrollata, anche questa su questo piano, e a questa finestra c'è una ragazza. Mamma mia, è sempre così, il promontorio era così, è uguale. Una ragazza dai capelli biondi si volta verso di te. E muori. È molto carina, ma ti dice: finalmente sei giunto qui. Ti aspettavo. Non penso di essere io. Intanto chiamo loro. Salite, allora, ci sono delle persone di sopra. Aspetta un attimo. Sta giocando a Pokémon. No, sta leggendo cazzate. Sta leggendo cazzate. Ma chi? Catta. È Quake. Sì, aspetta un attimo. Lei fa, salite e dico, sto aspettando Quake, sta giocando a Pokémon. Aspetta che voglio vedere una cosa sua. Anzi, sta giocando a... Sto leggendo un articolo. A Dragon Catcher. Cos'è Dragon Catcher? Che ne so, prendi i draghi. Tu quanti punti ferita hai? 60. Perché questa domanda? Quanti in fretta vuoi? Non ci faccio niente. Eeeh, va bene, va bene, va bene. Dov'è il giocatore? Qua. Arrivo subito, guardo solo una cosa. La torre di catto non mi piace. Arrivo. Mettilo solo. Allora, intanto mi puoi tirare l'iniziativa. Ah, mi attacca? Beh, tu tirala. 15 14 Quando hai fatto 14? Allora, facciamo così. Cazzo, ma io un incantesimo per identificare gli oggetti magici. Ecco, mi sono reso adesso. Ah, vaffanculo, mi serve una perla che costa 100 monete d'oro. Che cantarismo inutile. D'accordo. Allora, quindi tu dici aiuto, eh? Cioè... No, beh, aiuto. Vabbè, hai detto agli altri. Mi hai detto iniziativa adesso, però sì? Mi attacca, quindi? Sì, adesso ti attacca. Prima lei o prima io il turno? Prima lei, succede tutto. Allora non dico nulla ancora. Avevo solo detto salite, se... Vabbè, questo puoi averlo detto. Sì, sì. E ti fa... No, ma perché? Perché questa fretta? E... Ma non capisco... Non c'è da colpire o niente. Che è morto. Ah, forse è subito. Dimmi cosa fare. Sì, cioè nel senso, è un... Lei ti punta un dito e ti spara questa roba che si chiama Magic Missile. Ah, sì. Che non devo colpire. Cioè, fa danno e basta. Mi piace. Mi piace. E i guanti che ho? Ah, questo è il ascolta giocatore. Un attimo, i guanti che ho fanno solo sul range weapon o anche sul magic? I guanti che hai cosa fanno? Te l'avevo detto. Sono quelli per afferrare le cose, però non so se fanno anche magico. 5 danni con uno. Prima dimmi sta cosa. Cosa dice? Te l'avevo detto cosa mi fa? Hai detto reazione per usi la reazione per ricordare l'attacco Renzo. Non hai ancora agito, quindi non puoi avere reazioni. Ah, ok. L'ho mancato perché col destro non ci arrivo. Non posso quindi neanche fare l'uncanny dodge? Oddio. Ora come ora no. Ok. Allora, 5 il primo, 4 il secondo. Su 2 non segna. E anche e 5 altri il terzo. Oddio. 9, 14. Ok, dopodiché sui tuoi lati io sono sulle scale ancora, ok, cioè sono sei appena sul arrivato piano. Sopra sì. Sì. Appaiono e così me lo posso mettere qua due cose abbastanza brutte. Ma sì, rimani con noi, sono due streghe. Ah, quindi quella davanti e altri due di fianco? quella davanti è una ragazza. Fai vedere, okay. Immagino anche la stessa rispetto. La possono un po' vedere. Da qua. Va buia. Vabbè, devi farlo tu io. Così vi vedete tutte le statistiche, vai. No, non lo vedo. Ma te sei stronzo! Oh, basta sopra! Vabbè. Catta ha fatto la porca. Perché così? Lo so, che male. Ecco, questa. Così va fatto vedere. È molto in ritardo la cosa. Niente, non guarderete. Chi l'avrebbe detto? Secondo te si riesce a leggere? Sì, si leggeva bene. Vabbè, vai avanti, allora. Vai. Loro o me? No, loro ti attaccano. No, come iniziativa. Sa loro, sono attaccato. Allora muoviti. Va bene che hai un braccio in meno, però. Dai. Capito, dammi un attimo. Avete avuto lo scontro? Adesso ve lo faccio. Allora, ti attaccano con le loro unghie. Ora c'ho la reazione o no? Non hai ancora agito, quindi no. Non hai reagito. E ti prendi anche un bel critico. Così stai zitto. Non l'avrei mai detto. Ah, bello questo critico. Allora, 18 danni. Quindi sono già a metà, bene. Poi arriva l'altra. E direi che la tua classe armatura 15. È... Esatto. E ti colpisce anche lei. E ti fa... 16 danni. Con un'unghiata. Cioè, sei a 12. Ah. Ora sta a te. Allora, Trasformati in un malaro. Aspetta, stavo pensando. Allora, facciamo così. Siccome non ho idea di quanto ci mettano loro a salire, disingaggio scendo. E scendo. E arrivo a portata. Era al primo piano? Sì, loro sono sulle scale gli altri. Ok, se arrivo di fianco a Catta o Giulio, chiedo. Cioè. Gli dico quello che c'è e gli chiedo una cura o di passare una pozione. D'accordo. Ora mi tirate anche gli altri l'iniziativa. Dove cavolo ho messo la matita? Lo vedete? No, aspetta, dove tiri l'iniziativa, Giulio? Aspetta, metti. Allora, intanto riprendiamo qua. Lo stirare? Un attimo, sì, puoi tirare. Tira. Ben 5. Allora, quindi Arian 5. Scusami, ripetimi, Eric, la tua? 14 era. 14, sì, mi pare di sì. Quake Up 3, ricco. 2. Va bene. Ah, il cane. Cane agisce con te. Il cane. C'è ste furbatine. Ste robe. Se ci mette anche a fare. Lui è il cane. Siamo a posto. Wow. Cose brutte. Va bene. Direi che sta a loro allora. Direi che ci spostiamo comunque dalle scale appena possiamo, no? Non stiamo a combattere sulle scale, spero. Turu, perché no? Allora, che bellini che siete lì tutti pronti per essere attaccati. Allora, fammi vedere una cosa. Vai. le due si avvicinano dall'entrata, li vedono e dicono: ah, le due che erano di fianco? Perché fuggire? E ti sparano. Cosa? Dei missilotti. Aspetta, fammi pensare un attimo. 10 danni. Aspetta. Ora puoi farlo se vuoi. Anche magico vale quello lì? Mi sa di no. Era solo per le frecce. Allora. Però aspetta, guardaci. Che mi dodge. No, non quello. Quello guardaci, ma manuale sì. Del. L'ho scritto pari pari, dice range attack, però. Non specifica magico attack. Secondo me no, non puoi prendere una roba magica. No, infatti, anche secondo me. Mettiamo di no per adesso, andiamo avanti così. Però uso comunque la reazione con la Cani Dodge di mezzo. Di mezzi, però non so se. Un attacco. Vale. Non so se vale come. E loro là, è un incantesimo. È un incantesimo che però ha tre colpi. Allora, è un incantesimo. Vale su uno. Su uno di questi. Sul primo. È plausibile. Sì. Tu devi stabilire prima che arrivi il danno. Vabbè, no, non lo so. Penso di sì, ma comunque lo farei sul primo di. Sul primo. Cioè, normale. Immagino. Un attacco. Dell'attacco contro di te. Sul primo. Il primo era 1 più 1, 2, quindi 1. Quindi toglio 1. È un 9 invece di 10. Sì. Ora sei a 3. 3. Allora. Sarebbe proprio un peccato. Arriva l'altra. Vede e dice: ah, ma ancora lì? Spara un missile che ti fa 5 danni. Tu chi c'è prima di voi due sulla scala? Sicuramente io. Nessuno l'ha specificato e siamo rimasti con questo qui. Tirate un dado più alto. A meno che uno di voi due mi dica: ci sono io. Ci sono io. Ci sono, ci sei. Va bene, parte di qua esatto, mi devo ricordare di niente. Allora, Katta, gli altri due sono 4 danni che ti arrivano. E altri 5 danni. Hai splittato il missile magico? C'ha altri due raggi. Sono 3 dardi su each creature, quindi quelle che voglio. Ok. Anche l'altra, perché dovrebbe stare lì tranquilla. Arriva e dice: ah, altri visitatori. Questa era l'altra davanti, la ragazza. Dici? Venite pur qua. Ah, ok. Queste due le avevamo fatte. Tira sempre su Katta. 2 danni. Scusa, ma una cosa, ti ricordi 3 danni? Ti ricordi che pagina erano? E altri 2 danni. Gli oggetti magici. Assolutamente no. Magari. No, sono magici. Tanto do un'occhiata qua, visto che ci sono. Sta a Laz che mi fa il tiro. 20 era? Sì. 8. Quindi 8. Uno giù, segna. Fai tu sempre. Dopodiché sta Arian. Loro sono tutte vicine. Sono tutte all'inizio delle scale, sì. Le scale quante distanti sono? Saranno pochi piedi da voi. Voi siete sulla scala, diciamo, metà scalinata, e loro sono lì sopra. Ti ricordi che pagina? Vedo un punto. A oltre 20 piedi. A 20 piedi. Che sono. Non oltre loro. Tanto tu hai il turno, io l'ho fatto. Guarda l'indice, faccio prima. Cioè, loro se sono davanti, se li vuoi fare oltre. No, 20 piedi non lo vedi. Vedi il soffitto. Vedi il soffitto, sì. Che 20 piedi però sono? Sono 6 metri. Se mette sono un po' tanti, diciamo che il soffitto sarà 3 metri da voi, quindi metà. Vabbè. Pioggia su di noi! Allora, no, sono male però. Ah, una va bene, era la ragazza che comunque ha fatto sempre questa cosa qua. Ok, faccio... Beh, hai capito cosa sono, sì? Sì, sì. Ah. Fammi un tiro, giusto? Conoscenza, saggezza. Puro saggezza. Beh, dipende, arcano. Arcano. 15. 15. Allora, sì, sono delle streghe della notte. È giorno. È vero. Ma non mi pare che abbiano degli svantaggi per questo. E allora, sai che hanno, sono diciamo resistenti ad alcune condizioni, non possono essere diciamo come si dice, sedotte, insomma. Charmante. Sì, però c'è una parola italiana che è affascinate. Affascinate, esatto. Ma sciarpa, si capiva comunque. Eh sì, ma siamo, parliamo in italiano, quindi parliamo magari. I manuali sono in inglese. Lo so, e poi hanno varie resistenze, tra cui sicuramente... Ecco, allora, facciamo così, tirami un... No, ma sicuro che sono quelli del master. Tra cui sicuramente il fuoco. Sì, sono quelli del master. Questo è il player. Vedevo da quando... Questo qua? E, e le e armi non magiche. Mm-hmm. Diciamo così. E anche il freddo, dai. Argento? Non lo so. Sempre non magico? Non lo so. Vabbè, che tanto. Va, sta a te, Giulio. Eh? No, no, vabbè, fai dopo il turno. Me lo guardo io. Potrebbero cadere dalle scale. Non sopra. O non sono sulle scale? Sono. No, non sono sulle scale, sono sopra. Ah. Sono all'inizio del piano. Cioè sono all'inizio delle scale, ma non sono sulle scale. Quindi a che distanza da me? Fai 2 metri, 3 metri. Weapon c'è scritto, perfetto. Quindi solo range 2 weapon. Allora, faccio questo. Mi... Ah, 15 piedi sono? 3 quadretti, 4 e mezzo. E quindi io posso arrivare al massimo da loro, non posso superare. Posso fare? No. Puoi fare? Non posso provare una prova di atletica per slanciarmi, superarle e poi fare un incantesimo. Ti spendo l'ispirito. Dimmi come la vuoi fare, cioè nel senso puoi fare, provare a fare un acrobatics. No, ad un athletics per oltrepassarle di slancio, di forza. Gridare l'akbar e farsi. Beh, secondo me è una cosa che uno può fare, però si prende gli attacchi di opportunità. Okay. In realtà. No? Di fatto non esce dalla loro area. Entra. Sì, però se vuole passarle va bene le regole, però. Okay. Anzi, cioè mi passa, prendo, no, mi vuole prendo. Passare attraverso. Sì. Tra attraverso di loro, cioè spintonarle via e passare. Quello però è uno shove. Cioè è un'azione. O fa quello, fa l'incantesimo. Ah, ok. Ma cosa devi fare? Ma fallo davanti, te frega. Perché devi passare? È un cubo. Allora, no, nel senso, perché le devi passare? Per non beccarvi. Ah, beh, se sono sulla scala comunque... Becca. Vabbè, tanto. No, non puoi passare attraverso il loro spazio, a meno che appunto tu non le cacci via. Mannaggia, era così bello. Buttarmi lì e fare tanto. Avvicinati, lo fai al tuo modo. No, sei sempre in mezzo. cura lui. Esatto, più che altro. Tra le due cose. Guarda tipo giù. È vero, Laz. Perché avevo pensato. Forse anche se sei caduto avresti dovuto fare. Avevo pensato anche vabbè, a fare foto quando è caduto. No, ti accasci. A vedere un punto più lontano di loro. No, però gratuitamente se vuoi puoi buttare giù Laz dalla scala. No, non è vero. Ah, perché è morto sulla scala, non è arrivato in fondo. No, voi siete su. Beh, anche perché ero davanti a te, se no avrei fatto tipo birilli. Cioè, la scala c'è l'altro. Oh, scusa. 10, 18, 21, 26. Che cos'è? Curo Laz. Ah. Posto. E poi? Mi muovo in giù. In giù? Ma le volevi andare addosso? A questo punto non ha senso andare addosso. Ah. Vai giù, quindi alla base delle scale. Quakert. Allora, bene. Guardo il mio cane guarda me. Ci intendiamo. Fusione! Sono il pirata bastardino! Giulio non l'ha esplicitato, ma ha condiviso con noi informazioni che sapeva sulle streghe. No, non l'ha detto. Non l'ha detto. Però puoi fare uno anche tu, un tiro saggezza. Arcana, se vuoi. Retreat! Questi mostri sono mostri. Quali balena. Ci sono due mostri e una ragazza. Strano che questa ragazza sia con due creature così mostruose, perché la ragazza è piuttosto gnocca. Esatto. E... ma lei cos'è? L'ha capito lui? Cosa ha capito? Lui di là. Lui sì, ha capito che anche l'altra probabilmente è una strega, perché si possono cambiare di forma. Mm. Mm-hmm. Bene. Mm. Abominevoli creature, via dalla mia torre. Vai. Sguaino la spada, sì. E carico col mio fido bracco. E lui viene. Lui non attacca, però diciamo che cerca di distrarmi. Di, esatto. Azzanna un lembo, lo tira in modo da facilitarmi. In poche parole, fa l'azione help. In modo da darmi vantaggio quando colpisco. Vai, attacca una di queste streghe. Con piacere. 3 tazzo? Ma hai detto che sono resistenti o sono immuni? No, ti ho detto immuni all'essere affascinate. Resistenti al resto. Vabbè, resistenti. A quello che sono metallando. Beh, se però mi dicevi che il magico lo beccavo, allora facevo Magic Weapon. E così se lo beccavo tutto. Tu sei con la spada grazie d'argento, giusto? Sì. Tipicamente quella che ho, quella che ho. Andare potrei forse non attaccare con una spada diversa? No. Non ce l'ho. Vai, imbarazzo. Devo prendere a schiaffi. Vai pure, vai. Allora, facci vedere sti danni. Hai i guanti d'argento. Potrei forse io non essere alto un'armatura d'argento. Uso unica. Se vuoi la prendo a schiaffi. Occhi d'argento. Uno slot di secondo. Mi presti dei D8? Sì. Ne hai 6? Sì, se poi me li ridai forse. Tieni, questi sono 4. Non ce ne sono degli altri. Okay. Aspetta, ti do quello più. Sì, in questo momento sono tutte e tre vicine e c'è lui vicino a tutte, no? Ce li hai? Boh, io sono andato sulla prima, non so che. Sì, ce l'ho. Dovrebbe c'è quella davanti. Vicine, mi pare, no? Sì. Sono tutte vicine. Sì, la ragazza è un po' che. Sì, sono tutte vicine, però sì, ce n'è una davanti, tu vai su quella. Ma era per capire se vale il fiancheggiamento su anche sulle altre, poi, per poi. Furtivo. Su quella che attacca ce l'avrai. Ma non mi sa che muore. 10, 20. Non sarei così sicuro. 28. 31, 32, più 5, 37, 30, è il primo attacco. 37, questo è il modo. Vedi. Secondo attacco, Non penso di avere più vantaggio perché è solo con un attacco, mi sa. Vai. C'è rimasto un altro crittazzo. On fire. C'è rimasto un D8 lì nella scatola comunque. Mamma mia, doppio 20 in diretta. E c'è pure la prova video. Dov'è il bar? C'è pure il bar. Vabbè, direi. Fa vedere come è finita la Roma, giusto? Come prima. Hai già controllato? Ah, quindi è passata. Passata, grande. Merda. Uso un altro slot e vediamo di punirle. Vai. Tanto la proprietà privata. Mamma mia. Allora. Cioè, tu stai veramente facendo le frazioni, però sì. 20. 30. No. 36 e 5, 41. 41. Sì. Quanti ne hai fatti adesso? Cosa? Scusa? 41. C'è altro attacco? No, due ho fatto. Basta. È va. Morta? No. Cazzi. E sta a loro. Ma questo è inaccettabile. Questo me li avevi prestati tu. Servono. Cazzo, 41 più 37. Ne hanno parecchi di punti ferita, direi. Che becca la metà dei danni. Allora, questa anche qui dall'argento. Basta. Già. Questa qui disingaggia e si sposta. Che stronzo che sei, però. Le altre ti sparano i dardini. Che vengano, non ho paura. 4 danni. Altri 4 e altri 3, quindi 8, 11. L'altra totale, te interessa il totale, va bene? Totale. Sì, non cambia niente. Altri 11 e si allontanano anche loro dentro il piano. Ah, fuggite. Sì, tocca a me. Tocca a te. Ora non le vedi fondamentalmente. Parlo con lui, gli dico per evitare di far perdere turni a lui, visto che la situazione, gli chiedo di passare una pozione, così intanto... A Giulio? No, a lui, dovrebbe avere lui. Lui è sopra di te. Mi sposto. Sì. Ok. Alzarsi è un'azione, è un movimento. Vabbè. Usa metà della tua velocità. Sì. Metà del movimento è... Riesco ad arrivare da lui? Sì. Ok, gli chiedo di passare la cosa e... Uso il Poison Kit per mettere veleno sull'arma. Come azione extra. Non puoi usarla come azione bonus. Cosa stai facendo, scusa? Hai fatto? Si è mosso. Sono mosso. Poi? Hai chiesto la pozione. E come azione e come azione metto questa qua. Vuoi fare sta cosa qua? Sì. Vai a vedere il Poison Kit. Mi sa che devi fare una prova con Proficiency. Allora intanto vai avanti con loro e guarda com'è. Guarda, sì. Il Poison Kit. Allora, ti ricordi dove? Vai a vedere sull'equipment, sì. Vediamo cosa si dice. Secondo me, se non ti dice nulla, ti farei fare una prova. Tools? Sì. Sarà 150. Con proficiency sul coso, ma dovrebbe dirtelo cosa ti sì. Faccio. Più che altro bisogna vedere se la puoi fare in un'azione, ma penso di sì. Sì, dovrebbe essere un'azione, ma comunque adesso vado a vedere. Bisogna vedere, perché forse con quello... Forse con quello puoi... In realtà col Poison Kit, secondo me, puoi fare i veleni, non sono così sicuro. Ah no, Creation, hai ragione però. Mi sa che devi fare i veleni, quindi. Ah, niente. Dovresti averlo. Solo già. No, non li ho allora. Rettifico, non uso quello e uso la pozione. Puoi ciuffarmi la pozione direttamente dalla mia cintola e bertela. Sì, faccio quello. L'attacco di. No, quello quando. Tira, okay, quindi mi devo ricordare di farli. Tira per la pozza. E quant'è la pozione? Di 4 più 2. 2 di 4 più 2? Cioè, sì. Media, cioè piccola. Pochissimo. Segnatevela che l'avete usata. Il D4 li avevi presi tutti, sì, tu, sono pieno lì. Dov'è? Uno e due. 5-7. Segna. Era 4 più 1 più 2, hai detto, no? Mm-hmm. 7 totale. D'accordo. Segna tu, no? Sempre. Sta a Eriam. Lo raggiungo K. C'è mezzo lasso. Sono dimenticato di farli. Quindi sì. Ah, qui venivano utili. Raggiungo Katta. Bel lavoro, guardi un po'. D'accordo. Sta a te, Quaker. Dai, carico. E il filo bracco mi segue. Su chi? Su quella di prima. No, sono solito nel piano. Non le vedo. Sono nel piano. Lei è dietro ora. A queste due. E riesco ad arrivare a questo. Magico. Sono il magico. Grazie. Puoi arrivare o alla ragazza. Oppure oppure la strega. Mentre questa è incalletta. Allora. È coperta da loro. Allora, fammi prendere i dadi, va? Sono combattuto. Ma quanto sono? 38. 38. Per farti questo numero. Però questo. Però mi sa che poi beh, hanno messo la pubblicità nel Facebook. Che cosa fastidiosa. Cavolo, bello. Lo fai Renzo adesso o vai a picchiare? No, mi sa che iniziano a evocare cose. Quindi Renzo, ok. E uso il mio ultimo incantesimo per fare Misty Step. Perché sono belli questi. Passate la nuova giocatore, non l'avevo visto. Un giocatore? Sbagliato. E mi circonda una nebbia argentea e mi teletrasporto a 30 piedi di distanza in uno spazio che posso vedere. Puff. È sempre sul piano dove vuoi andare, o giù dalle scale o andare addosso a quella che avevi già ferita. Ok, però questa non è un'azione la tua? È un incantesimo che è una bonus action. Ah, quindi vai dietro. Catta se ne inventa sempre uno. È quello che sa fare questo personaggio. E per il resto è una tazza. Vai. E quindi gli arriva un ceffone. Non avrò vantaggio perché il cagnolino ovviamente non mi può seguire, purtroppo. Il cagnolino va a infastidire invece la prima della fila. Grande. Per così dire. Furtivo. Esatto. Allora, primo ceffone. Ah, fai proprio l'attacco completo? Sì, ho ancora un'azione normale. Vai. 20. No, li ho finiti 20, mi sa. Cos'è? Più 8. Quindi non prendo. Secondo attacco. 25. Preso. Questo però è un normalissimo attacco che fa 11 danni. 11 danni? Fisici, quindi li dimezzo. Fisici? Cosa dicendo? Ma cosa hai attaccato? Con la spada? La spada? Con la spada argentata. Sì, ma non è magico. Allora, un attimo solo. Stammi un attimo solo. Hanno gettata il legame. No, non è che il secondo spazio. Ah no, sì. Più di 60 piedi direi. Ma come fanno a farla questa cosa, scusa? Non capisco. Ma non è così. In questa edizione i veleni sono, che tu sappia, a tempo o a hit? Come durata? Che in realtà non li ho mai usati, però... Cioè, la condizione avvelenato dà tipo svantaggio ai tiri. No, no, no, è il consumare il veleno che metti sull'arma. È a hit o a tempo? Tu dici se avvelena una lama. Una roba più attacco con quella, io mi ricordo un perché se non sbaglio mi sembra che l'altra fosse hit, l'NPG tipo dell'assassino dice ogni volta che colpisce fai danni in più. Sì, no, allora l'effetto del veleno, ok, quello non lo so, vedremo. Dico, il veleno si consuma dopo un tot di tempo o dopo che l'hai colpito e pulita l'arma? Mi ricordo il tutti gli attacchi che questo tizio faceva, però era un PNG, non ti so dire se è uguale anche per i PG, in più i danni. Ah, tutte le volte? Tutte le volte. Ah, quindi rimaneva tipo tempo? Aveva i danni del veleno. Ok. Però i danni del veleno... Come li conta anche? Magic? Sempre. No, cioè un danno per... cioè tipo so proprio se... Ah, ok. E mi sa che non si moltiplicano col critico. Beh, penso di no. Dovrebbe essere una sorta di roba passiva da mettere così. Quella infatti non l'ho mai usata e ripensandoci è una bella cazzata. Avrei dovuto iniziare da prima. Però adesso che mi adatterò. Studierai di erboristeria. Anche perché il Poison Kit ce l'ho tipo dall'inizio. No, due. Ah, ok, vabbè, posso farlo. Perché... Va bene, Katta. Muore? Tu hai fatto. Muore la tipo o no? No, è ancora muore. Lì. Ok. Tocca loro. Sì. La tizia, la ragazza, ti fa una roba. Devi fare un tiro sulla saggezza. Salvezza. Hai un più uno. Hai un più uno. Per il ruolo di un bond. Quindi per un totale di più 7. Bah. 27. Va bene, passi. Peccato. Peccato. Beh, suggestion. Oggi ce l'hai, sei peggio di lui, eh? Lui per ora ne ha fatto solo uno, è diventato già tanto di tutti quelli che ci ha fatto. Vendetta vera. Allora, fammi vedere dove sa fare. Arriva. Adesso tiro giù quella lì, dai, se la faccio. Vedi il master che non si studia gli NPC prima, dai, che dopo non riesce a giocare. Mi ritirano la patente di master. Lo fa. Non li so gli incantesimi, sapete che su quella parte di sono sempre. E perché metti le cose con gli incantesimi? Perché no, visto che possono fare queste cose, credo. ma anche questo deve fare wisdom. Vabbè, allora vediamo, faremo un'altra cosa. Allora, voi siete invece lì giù, giusto? Io ancora non siamo saliti, no? Sì. non era il nostro turno. Allora, l'altra si allontana un po' dal gruppo, arriva dal... L'altra quale? Una, una ha provato a fare una roba su Katta, ma non ha funzionato. La, quella umana, diciamo. Esatto. Poi l'altra invece arriva da voi. La, aspetta, l'altra, quella ferita? Sono tre, no. Okay. Quella non, che non è in combattimento con Katta arriva da, davanti a voi. Quindi e... sono attaccato l'opportunità dal cane. Non è detto che l'attaccava il cane, solo che dà fastidio, non so cosa vuol dire. Beh, però il corpo del cane ha fatto l'azione aiuto, però il cane è lì di fronte a lei, no? Quindi lei se ne va e si allontana dal cane. Che allora gli faccio questo attacco dopo lui. Può usare la reazione, no, non so. Come reazione. Come deve colpire? Quanto ha fatto? La Madonna. Andiamo a vedere le statistiche del mastino. Non ce che porcata. Vabbè, mentre Katta fa questa cosa strana e allora Katta sta chiesto Cristo la stessa qua. Allora lui ha un grosso più 3 a colpire, 19, fa un grosso di 6 più colpisce, se colpisce fa ben 7 danni. 7 danni? E se la, la bersaglio è una creatura deve fare un tiro salvezza sulla forza. O è rimanere lì dov'è? No, è venir sbattuto a terra. I lupi! I lupi! Vai, fai il tiro. Tu devi fare il tiro salvezza. Di 11. Forza. Vai, passa. Non ci credo, vogliamo vedere i tiri. ho capito, allora. Sono anche magici, no? Più 4 di forza. Celestiale. So, celestiale. Hanno più. No, più. Vai, mi fate un. Noi due, io e lui. Voi due mi fate un tiro salvezza sulla destrezza. Perfetto. Ah, loro due. Beh, per me in teoria va bene, vediamo. 16. 16. 11. 11, sì. Solo più 2, ho più 5. Ho fatto 6, non è un 9. No, ho fatto 6. Allora, tu non lo passi, tu lo passi e prendi metà. Adesso vi dico quanto prendete. Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è? Una cosa d'aria? È un lightning bolt. E allora io e Evasion comunque prendo la metà. Va bene, prendete entrambi metà allora. È una linea tipo fulmine che vi... che vi colpisce. Naif. Usato di mai fulmine. Allora. Non hai delle buzz. No, purtroppo. Non hai delle buzz. Ho delle buzz per farli, non per subire. Te anche quando non sviluppi a un certo punto una resistenza. Aspetta, no, questa cosa mi sta un po'. Che invece che lo fa? Druido, qualcuno che. Cavolo. Ne avete preso il 6? Sì, li ho tutti io per i furtivi. Facciamo direttamente metà. Ti devo dire prima o dopo il tiro se voglio dimezzare o no? Lo devi dire adesso, ma puoi dimezzare qualcosa che ti ha dimezzato? È l'uncanny dodge. Quando ti colpisce, lui ti dice ti colpisce, tu di prima che lui tiri il danno. Ok, no, allora vai, che mi serve, penso mi serva il, serve il doppio movimento per arrivare a quella ferita. Quindi 14 danni a ciascuno. In più sei grande. L'altra, a sto punto, visto che sei lì... Quanto ho? 22. Mettiamo un po' la situation. Come pensare? Arrivo, perché sono, spariamo tutto. Uno può incantare in combattimento. Cosa vuol dire incantare? Può lanciare incantesimi, basta che non siano attacchi. Ah, no, può anche fare attacchi, ma è svantaggio. Sì. Allora perché non fa? Attacchi a distanza. Se invece sono incantesimi che hanno un attacco in combattimento, non ha problemi. Allora vediamo cosa può farti, arrivo subito. Ma sempre. Vai, mi fai un altro tiro salvezza sulla. Lui? Sì. Ah. Sulla saggezza. Dai, vediamo. Mm-hmm. Hai più 7 sempre? Mm-hmm. E la madonna. Niente. Peccato. Niente. Tocca a me? Tocca a te. Le vostre chiacchiere non affabuleranno mai. Sì. Io salgo e vado dalla sua. Se serve, non ci arrivo, uso la finestra per far doppio. No, è in mezzo che ti occupa la scala un'altra. C'è uno all'inizio della scala ora. All'inizio? Sì. E allora mi fermo lì e sparo con l'arco all'altra. Vaffanculo. È oltre. Cioè, ti copre in teoria la visuale. Ma è sulla scala o è... All'inizio della scala? C'è questa, c'è questa qua. Cioè, non puoi andare oltre e sparare. Secondo me. Cioè, non ha molto senso. E per passarla posso passarla... Cioè, dovresti andarli tipo a contatto e sparare, che però non credo che sia una cosa che tu possa fare. Abbiamo fatto l'inseguimento tutta l'altra volta così, eh? Le arrivavo addosso e non potevo attaccare. No, ok, ma è come se tu andassi in faccia a questa e sparassi tipo l'altra, cioè secondo me ti fa un attacco d'opportunità, anche se arrivo là, magari non è previsto. Allora, semplicemente lui ha svantaggio, oddio. Se è così, arrivo lì. Dio, possiamo anche fare aspetta, così. No, aspetta, facciamo diversamente. Vai, tira con svantaggio, dai. No, aspetta, facciamo diversamente, è più facile. Arrivo lì. Siccome è vicino non devo usare il doppio movimento, invece di usare la extra su quello disingaggio e sparo, cioè la supero disingaggiandola. Non funziona così. La tipa blocca completamente la... Sì. Cioè o attacchi lei... Lui è piano di sotto, giusto? Lui è sulla scala. No, non ha senso che attacco lei perché non posso fare il furtivo. Ah, vabbè, che non ha senso per te, però nel senso a livello coso... Puoi ritardare... Attacco io e tu fai il furtivo. Che stai in cima alla scala, giusto? Sì. E blocca quindi l'accesso al piano superiore. Esatto. Allora. Non c'è la cosa della acrobazia. Provo, a tirare con... O che lui mi dice che provo a fare un'acrobazia di qualche tipo. No, provo a fare con svantaggio, dai. Ora faccio così. Quindi cosa vuoi? Provi a andare a tirare con svantaggio a quella dietro. Sua gli va in faccia e tira ad un altro. Secondo me però ci sta che si prenda l'attacco d'opportunità. Onestamente. L'attacco d'opportunità lo si fa quando uno lascia l'area minacciata. Però è giusto che invece quando uno tira, vai, che ha un attacco in corpo a corpo, ha svantaggio il tiro. Vai, tira. Uno è fuori, lo ritiro. Dai, ritira dentro. Uno era un 20. Fatto 20. Ah, svantaggio. Fuori era 15. Quanto però hai fatto? 14. Viene. 14 non prende. E allora bisogna vedere se colpisce Katta, però. Va a colpire quella che è in combattimento con te. No. E quindi ci sta che ti colpisca. Ma anche no. Ma anche sì. Ha già avuto svantaggio, poi vuoi dargli anche una penalità. Assolutamente, tira in un corpo a corpo. Perché no? Non serve questa cosa. Sì, esatto, perché non è contemplata, però se vuoi farlo facciamo. Beh, scusa, se uno tira in un corpo a corpo, secondo me ci sta che possa beccare l'altro. Allora lo dovrebbe fare tutte le volte anche Salla quando misso. Sono sì, tutti in corpo a corpo. Non farlo no, ogni volta. Perché succede sempre questa cosa. L'altra volta ne ha missate se vuole 4 di fila. Ma se uno va in corpo, se uno spara su uno che è in corpo a corpo, di solito li faccio tirare dopo. Se becca l'altro. Non abbiamo sempre fatto così? No, di solito non l'abbiamo mai fatto. Una volta forse. Forse se uno faceva un 1. Ma scusa. Con gli uno sì. No, questa regola casa non è previsto. Non è previsto? No. Cioè se uno tira su un corpo a corpo. Non è come in Star Wars che c'è il dispegno. No, quello puoi che dare però nell'altro puoi dare copertura al bersaglio, questo sì. No, non c'era. Con gli uno sicuramente ci facevi colpire l'altro. Ma Vabbè, ci sta, dai, quella cosa degli uno. Va bene, via. E poi uno ci sta perché è scattato così tanto che colpisce il tuo compagno. Con l'altro dovresti va bene, ci dare sta. Una percentuale di possibilità, cioè puoi farlo. Sì, no, ma se di solito mi dite che non lo faccio, mi pare sì, in quel caso sì, no, probabilmente non me lo posso tirare fare, l'altro. Dai, no, se, cioè, non, se non me lo facevo fare, no. Allora, cioè, mi ricordo che uno di sicuro colpiva. Sì, l'uno ci sta, dai. Allora, anche 5. E allora, va bene, sta a Quake. Giulio. Ammazza che ammazza. Quindi io ho la scala bloccata da... C'è lui e l'altra davanti. Ok, mi avvicino alla strega. Sì. Mi faccio infligge ferite. E... Cavolo, non avrei preso. Cosa, un tiro? Perché è uscito fuori il dado, non lo so. Questa cosa della scatola non mi piace. Sapevo che si doveva andare. Che cosa? Ah, boh. Però comunque è lì il dado. Non lo tiro lì, non lo tiro più. Allora perdi, ragazzi. Non tiro. No. Voglio fare solo conversazioni. Parlo. Mica mi è spellata. Che... No, non devo tirare io. Devo tirare. E allora aumento. Anzi, no. Quindi ho un più 8. Cioè anche 5 di... Sì, ho un più 8. Cosa? Aumentiamo, uso... Allora ho usato uno di quarto per curare la... Adesso mi do un altro corso. Quanti ne hai di quarto? 20. Che ho usato le mani. Tiro, Vez. Tiro per colpire. Vai. 19. Presa. E allora sono tutti i danni. Sì, sono magici almeno sti danni. Certo. Ah, va buono. Sono 4 di 10. E là. Certo. Quelli di quarto pagano almeno, dai. Vai, dopo sta quel cap intanto. Che schifo. Questi 10, sono danni 15. Che schifo. Che danni sono questi? Necrotici. Non ha riduzione interna. Ok, totale? Hai detto? 15. Ok, Quake sta a te. Finisce la tua. 30, dai. Mi accorgo che la mia spada non funziona, quindi la accendo. Cosa allora vuol dire non funziona? No, non ti accorgi che non funziona, ti sembra che funziona benissimo. Ma gli faccio la metà dei danni. Non ah no, cazzo, ho sbagliato, ho una hit the target 3 di 10, più 1 di 10 per ogni slot. Quindi mi becca altre 3 di 10, scusate. 3 di 8. No, di 10. Ah, è vero, cosa? Di 10. Cosa meglio, dai. Ne ho tirati... Ah no, ne ho tirati 4, quindi altre... Cosa dice? 3 di 10 con level high, allora ci sbagli 1, quindi altri 10, altri 2, altri 2, altri 11, quindi sono 26? Sì, non sì. Meglio. Non paga. Sì, è grosso. Vai. Ti sembra che la tua spada vada normalmente? Sì. Sì. Io prima te l'ho detto, i magici, però. Ma non sono magico io. Io ti ho detto i danni magici funzionano. Quando sei andato su, io ti ho fatto guarda in bond e ti ho detto i danni magici funzionano. Ok, ma io non ho attivato la... No, tu no. Vabbè, nel senso... Ah, tu vedi tu. A te sembra che funziona normalmente. Però vedi tu. Io ti ho avvertito... Detto, però io questa qua però poi io l'ho colpita con la spada normale. Quindi dovrei aver visto che i danni non li prendeva tutti. A te sembrerebbe, meno a te sembrerebbe che dipenda. Invece tu tutto. Mi dici che mi sembra che funzioni bene. Però nel senso è una cosa molto... No, se io se un troll di mezzi danni perché la pelle è dura, io lo vedo che i miei colpi non sì hanno effetto. Sì e no. Cioè, sì e no. Cioè, nel senso sì, però fino a un certo punto. A te sembra che funzioni normalmente la tua spada contro di lei. Cioè, non hai notato... Ti sembra una con un po' di buccia, però non ti sembra che tipo fai un taglio e... Tipo fa meno squarcio di quanto dovrebbe. Che cazzo ne so. Poi è sì. Una roba molto flavor, quindi. No, certo. Diciamo che sì, la sensazione che hai avuto altre volte, magari poi te per qualche motivo. Io nel dubbio sto usando dei guanti di fuoco. Non so perché. Te sono anche di ghiaccio. Per cui vabbè. Però, diciamo, nell'ignoranza, in passato avevi notato questa cosa con altre cose, ma qui non ti sembra. Che strano. Forse l'arma argentata è potente contro tutti, a quanto pare. Comincia a credere. Infatti è stata un'ottima cosa. Già. Già. Dicevano che l'argento uccideva qualunque cosa. Va bene. Però appunto il mio caro amico Arian mi ha detto i danni magici. Vai. Del mio alto quoziente intellettivo. Non ho più slot per farlo. Quindi il problema si risolve da solo. Bello. E, attendiamo il tiro. Dico al mio caro Fido di distrarre la strega. Ok. Per avere vantaggio al primo tiro. C'è il ventello? C'è il ventello? No, c'è 19. Però. Quasi. Danni. E uso uno slot di primo per fargli un pochino di male in più. Non ho più. Quindi spada e questi 15. Ok. Poi secondo attacco normale 17. Prende 6 danni. Ok. È ancora su? Sì. Finirà malissimo. Tu non hai più cura? No, io ho usato due incantesimi fino adesso. Ok, usiamo un po' di queste cose. Allora, quindi voi mi dicevate che... d'accordo. Allora, vediamo quella su Catta cosa potrebbe fare. Potrebbe fare... Adesso vediamo cosa gli fai fare. Intanto c'è quella lì sulla scala che c'ha davanti il Lazzarino, giusto? E lui, anche lui. E anche lui, esatto. Sono affiancati tutti. Ok. Fa un... Si muove indietro. Indietro nella stanza? Sì. Ok. Disingaggia o no? Perché siamo tutti... Cioè, lui tu non è sei lui è in corpo a corpo, però. Ha detto che la tocca, però... Cosa hai fatto? Un tiro per colpire? Sì. Cosa hai fatto, scusami? È un tocco necrotico. Ah, sei passato attraverso lui. Ah, ok, posto. Allora no. Allora sbuca l'altra. Però ci sei tu davanti, quindi. No, aspetta, l'altra va su Catta, allora sto punto. Dovremmo essere, si gira, ti dico, dovremmo essere. Lei, allora, questo qua è l'entrata delle scale, come si dirà, no? Cioè, lei la, è qua, la io sono davanti e tu sei di fianco. Lì da Las che ho allungato un braccio, l'ho toccata. Cioè. Sì. Quindi lei sta in corpo a corpo? No, allora, ce li fermi. Allora, quella che è libera... Bene. Che è quella con le sembianze normali. Sì, allora, diciamo che lei va su... Si va su Catta in un, da lontano. La tua classe armatura è un più uno, quindi arriva a 20. D'accordo. Allora direi che ti prende. Ok. Ti fa un raggio verde addosso. Il mio colore preferito. Che però tu sei immune al veleno. No. Paladini sì. Le malattie. Veleno no? Sono danni da veleno? Sono danni di veleno. Controllo, ma dovrebbe andare. Se li puoi prendere, sono 8 danni. E poi fai un tiro salvezza sulla costituzione. Sono a metà. Ah, giusto. Non devi fare concentrazione. Allora, no. So, è un incantesimo però, eh? No, no, perché io prima gli ho fatto il Warding Bomb. Ah, ok, anche sugli incantesimi. Resistenza su tutto. Allora, costituzione, dov'è? 3, 5, 13. Cos'è? 13. 13 hai fatto? Allora non passa, sei avvelenato. Sei dispel. Sei avvelenato fino alla fine del prossimo turno. Avvelenato, bisogna vedere cosa vuol dire. Svantaggio a tiri per colpire, mi sembra. Adesso lo controllo. Beh, tanto è il cagnone che ti dà vantaggio, quindi compensa. Era meglio non avere. Qua. Esatto, sono immune al disease, che sono le malattie. Il veleno non lo dimezzo neanche. Non l'ha dimezzato perché ha fatto Warden Bond. Ma li prendi tu quelli lì o di mezzo e basta? Io li prendo io. Però non da veleno, però sono i danni. Ma prendo anche il tipo. Esatto, svantaggio agli attacchi e alle prove di abilità. È interessante questo. Meno una deve andare giù. No, è troppo lunga sta cosa. Allora, se quindi mi stai dicendo, se uno è corpo a corpo si deve fare un tiro per colpire a svantaggio. Con no, un attacco a distanza. Con un attacco di distanza. Ah, solo per un attacco a distanza. Va bene. Allora. Io direi che va bene. Allora, la strega che è davanti a te, Katta, scompare. In una nuvoletta rosa? No, scompare. Invece, se ne va? Quella che è davanti a Giulio, cosa è davanti a Giulio? Vediamo se riesce a colpirti. Tua classe armatura? 18. Non penso. Non ti prende, quindi rimane lì. Va bene, sta a me? Sì. Allora lascio l'arco e colpisco quella di davanti. Cioè, cerco di colpire quella di davanti. Vai. 20. Sì. No. Un po'. 5, 11, 13, 17, 20, 25. Va bene, totale. E aspetta. E allora, turno A. E a posto così, vai. Va bene. E a te Ariel, riattacco l'arma, vabbè, lo sai, ho solo quella anch'io. No, Ah no, lei è stata difesa, ma ha preso. Allora la riattacco. Sì. 3. 11. No. Ha fatto 2? Ha fatto 3. Sta a te, Quakert. Ok. Allora io e il mio caro Bracco insistiamo su, sempre su di lei. Eh no, è scomparsa. Ah, era lei che è scomparsa, avevo capito l'altro. Quindi adesso ne rimangono due. E rimane quella con la forma normale e quella sulle scale. C'è una ragazza e poi quella dalle scale. Ok. Posso arrivare addosso a quella sulle scale senza passare attraverso quell'altra? Beh sì, t'ho attaccato da lontano. Sì. Certo, per arrivare dietro. Una infilata. Assolutamente, sì. Aspetta. Ma l'hai attaccata anche tu? Vabbè, con 13 non avrei colpito qua. Sì, l'ho attaccata anch'io. Però con 13 mi sa che non la prendo. Avrei colpito qua. E quindi io e il mio Bracco andiamo su di lei. Il Bracco mi aiuta così mi cancella lo svantaggio del primo attacco. No, self only, l'ho visto adesso. Vabbè, fa lo stesso uguale. Oh, scusa. 20. Sì, ho presa. Infatti mi sembrava un po' potente da fare. Un altro slot per smitarlo. 14. Ma quelli di smite non sono danni sacri? Sono danni non sacri, da danni luce. Sì, non mi ricordo. Radianti. Scusami, Lezze, erano 14, 19. Vedi qua, 8, 14, 19. Più 5, 24. 24. Il primo attacco, il secondo invece lo faccio con svantaggio. E tu avevi lo svantaggio? Sì, però il primo l'ha cancellato il mio cane aiutando. D'accordo. Al secondo invece no. Peccato, 20. Sarebbe stato un 20. Già. Ma comunque dovresti beccare comunque. Quanto fai? 20. Sì, prendi. E faccio un attacco normale. Okay. Sempre 6. Quanti? 6 danni? D'accordo. Ok, quei card ha fatto. Tocca a te. Sta alle... a loro. Allora. Riappare l'altra. Dove? Dove era prima. Quindi staccata ora. Le altre due, allora, quella, diciamo, la ragazza tira contro Katta dei dardi, gli fa 5, altre 5, e altre 5. Cazzo, scusa, il dado da 6? Di 4. Di 4 più 5. Ah, ok. 6, 34. Un attimo solo, già che ci siamo, fammi vedere se possiamo fare un'altra cosa carina. Vabbè, forse su Giulio. Dove ci siamo? Cos'è questo? Arrivo, eh? Cosa sta spingendo? Katta. È tardino. Devo mettermi in carica. Vediamo se sono dei fantasmini. Ah no, è vecchio. È fatto questo. E... allora, faccio proviamo un altro questo. Ora arrivo. Ok, sì. Giulio mi fa un tiro salvezza sulla saggezza. Più 2. Più 2, 16. 16? Mm-hmm. E cacchio. Un tirato di schifo. Niente, non lo passi. Questa chi era? Quella umana? Sì, sta a te. Continuiamo a attaccare quella in corpo a corpo a questo punto. Vai. Sono un druido, sono una saggezza alta. Sono un druido, sono chi è? Come prima, vedi? Vai, prendi. No, se ci siamo la memoria. Dai, non ci credo. Però. Però. Cioè. Ne metti? Bello, mettilo, mettilo. 3, 5, 7, 12. 12. Assurdo. Non hai tirato sopra il 3. No, 1, 1, 1, 2, 2. Fatto. Sta a Arian. Quindi c'è una davanti a me e le altre due sono disingaggiate. Ma adesso siamo tutti su, tutti su di voi. Però c'è quella, sì, voi c'è due quella, davanti e lui dietro. C'è quella che stava messa male in teoria, che è riapparsa da lontano. Sai cosa range fa? Sì, ma quel cazzo fa vederla. C'ha lei è dietro quel cazzo. Vederla magari la vede. Dipende come è fatta la scala. Boh, con svantaggio sicuramente. Se, se la scala è aperta e non c'è un parapetto, sbuca con la testa dal livello del pavimento. Dipende, se vedo dello spazio. No, voi siete all'ingresso, cioè lei c'è davanti e poi ci sei tu dietro. Cioè, nel senso, Dio. Beh, scusa, loro come fanno a fare l'incantesimo allora? Toccherà che vengono in vista anche loro. L'ha fatto su di loro. Su lui l'hai fatto su di lui la prova adesso? Quella che è in combattimento l'ha toccato. Ah, quella in combattimento. Ah, ok. Ho capito quella. No, per carità, si può fare. Si può fare. A termini di regolamento, no, si può fare. Dipende soltanto come è fatta questa scala. Cioè, se è un tunnel, allora è chiaro che non lo vedono. Ma se è tipo non c'è il parapetto, per esempio. Faccio spiriti, cioè, guardiani. Arriva su. Ah, ho capito cosa vuoi dire. Beh, però a prescindere comunque sarebbe dietro. No, cioè, in realtà arriva e c'è tipo l'ingresso è come se fosse una specie di porta. Sì, però non c'è un porta. Muro. Sì, c'è un muro. Sì. Faccio spiriti guardiani. Compaiono quei sorte di giganti delle tempeste ectoplasmatici. Cioè, che gran folla che c'è. Ok. Che gran folla. Sì, vabbè, ma sono tipo degli ectoplasmi, sono degli spiriti. Troppo. Attaccano. In realtà, quando stai, c'è il turno avversario. Ah, ok. Vai, sta e, a e se qualcuno ostile, ovviamente voi siete esclusi. L'area quant'è? 15 piedi intorno a me. Un cubo di 15 piedi. Ok. Tre quadretti. Vai, io e il mio caro Bracco insistiamo su questa qui che vediamo uno di buttarla giù. Ah no, è finito il veleno, un turno. Sì, no. Esatto. Vai. Mi attacco con vantaggio. 21. Nel decreto. Sì. No. Porca troia, basta questo dado, 6 danni. Sì. Ah, è normale era? Sì. Secondo attacco. 8. 18. Di 16. No, no, no. Ma perché non solo 6 danni? Hai fatto uno di dado? Sì, ho fatto 8. Allora, anche a te vedo che è andata bene. No, quando faccio... Vai, sta loro. Sta loro, quindi cosa... Sta loro. Cosa subisce la tizia che è dentro? Perché all'inizio del turno? Sì, deve fare un tiro di salvezza. Salvezza CD sulla volontà, CD 16. Cioè sull'intelligenza? Volontà. Qui sarebbe saggezza. Saggezza. Scusa, 16? Sì. Non passa. Ok, allora la sua velocità è dimezzata. Aspetta però, questo è un effetto magico. Passato. Cosa succede? La sua velocità è dimezzata. Ma era dimezzata anche prima. Lo passo, ho detto, non lo passo. Passa la cosa? Lo passa. Ok, allora non è dimezzata. Ok. Prende metà dei danni. Vabbè, aspetta che sono con... Ah no, scusa. Non sono di 10, sono di 8. Ci piace. Sì, sì. 10, 17, 8 danni, vedete. 8 danni? Sì. Come? Di mezzo radianti. No, questi non di mezzo. Sì. Ah, sì, li ha dimezzati, nel senso, perché ha passato. Sì, sì, sì. Va bene. D'accordo. ricordo. E scompare. Questa qua in mezzo? Sì. Le altre due sono fuori. E sparano su di voi i dardi. Sparano su Kat, in realtà. Che vengono. 2, 5, 1, 2, dopo. E altri 5. E l'altra pure. 3, 2, 2. 3, 1, 1. Sta te, Eric. Com'è che funzionava quella cosa che dicevi prima? Ritardare il turno? Prepari un'azione. Aspetti che qualcuno mi faccia una cosa. E dici quando succede questa cosa. Ho messo bene. Faccio no, 26. Preparo l'azione, aspetto che arrivi in corpo a corpo. Cavolo, sto un coglione. Ah, però non potevo farlo. Vabbè, vai. E sta aereo. Ok. Vabbè, entro a questo punto. Sì. Il soffitto c'è o non c'è? Sopra? E c'è la scalinata che vedete che porta ancora su. Ah, ok, non siamo in uno spiazzo. Peccato. Vuol dire, così si usa il fulmine! Quanti distanti sono loro? Tra di loro? No, più di 15 piedi, perché non hanno fatto il tiro per il tuo Guardian Spirit lì. Sì. Sono più di 15. Perfetto. Allora mi fiondo in mezzo. Vai. E ah, finalmente lo può fare. Mi sei crollato. Cazzo, non mi ricordo neanche più cosa fa. Però sono allora del cane, sono CD16 sulla costituzione. È un incantesimo. Passa tutte e due. Passano tutte e due. Tanto comunque prendo dei danni, no? Sì, sì. Sì, sì. Non vedevo l'ora. Anzi, no. Uso un Channel Divinity e li mi assimisi. Quindi 8 per 3, 24, prendono 12. Ah, quindi non tiri? 12 danni a testa? Sì. Solo? 24 più 2. E sono spinta ai 10 piedi via da me. Anche se. Ah, in che direzione? Sì. A posto. Una muore. Ah no, aspetta, non sono spinte. Questo, ah, perché ha resistito. I danni. Una muore. L'altra. Scompare o rimane lì? Io penso che. Corporeo o incorporeo? No, questo muore. Mago di Oz diventa una pozza di. Infatti. Bah, ci pensiamo dopo. E, manca per adesso c'è solo quella. E vediamo, sì. Mi tiri un dado percentuale, Giulio. Per rompere la torre? Vediamo cosa. ha detto che la voleva demolire. Un po' poco. 24 danni per rompere la torre. Beh, però se li prende pieni, non ha resistito. 62. Ok. Appunto, 24 sono pieni. Capito, ma la roccia. Sì, è vero. Un po' di polvere cade, ma niente di che. Cioè, si sente un tuono a 300 metri, 300 piedi di distanza, si sente il rombo del tuono. Aspetto, io ritardo ancora, perché aspetto lui corpo a corpo, se va. Ma cosa tu, scusami, quando dici in ritardo dovresti specificare? Così mi hanno detto. Ho detto aspetto che qualcuno vada in corpo a corpo perché è un avvenimento che esatto. Aspetto che qualcuno vada in corpo a corpo per fare la frena. Ok. L'ho detto prima. Allora dovresti specificare per far una, per scagliare una freccia. O fare un attacco. No, l'attacco. L'azione è attacco, sì, ho la spada in mano, quindi. Immaginavo fosse 2 più 2. Vai. No, è degli specificati. Quaker, sta a te. Ok. Mi tocco il petto e mi sta succedendo? Mi tocco il petto e mi curo di... Ma, ah beh, c'è il cane per fortuna. Grazie. Mi curo di 20 pf. Ma io non ho capito, sto cane va lì e fa un attacco? No, fa l'azione aiuto. Che può farla chiunque. E ma se fa aiuto... Se fa aiuto, è un corpo dai vantaggio a chi vuoi per un attacco. Ed è come se fosse fiancheggiato per il furtivo, cioè di sì e così. Caso. Per il furtivo basta che ci sia una creatura ostile entro 5 piedi. Ah, non deve essere neanche fiancheggiata? Cioè in corpo se corpo. È entro 5 ingaggiata? Piedi o dietro a fianco. Ok. Vai. Curo di 25. Va bene. Vai, sta Eric allora. E quindi ho vantaggio col cane. Poi, scusa, mi muovo addosso all'altra. Ce n'è una, è rimasta una. Gli arrivo in faccia. Vai. Ho vantaggio? Sì. Io. Vai. Ah, il cane aiuta. Sì. Quella. E quindi tu. Dai, facciamo sto bel 20. 19, quasi. Bastardo. Non c'è per fare per tirarli dentro. Meglio di prima però. 12, 15, 19, 24. Vai. 3, 8, 9. Ok. Perché rimetto sempre via il dado? Dove l'ho messo? Ero l'ultimo, sta a te. Sta a lei. L'altra che pare. CD 16 sulla saggezza. Per cosa? Non passa. Spirito guardiano. Velocità dimezzata. E 13 danni. Ok. L'altra che pare. Dove siete voi? Tutti lì, giusto? Sì. 13 danni radianti. Siete tutti lì. Si riappare. Vabbè. Si riappare entro 15 piedi. No, riappare dove era prima, quindi fuori ora. Se non sbaglio. Sì, se l'ha fatto uno, non lo so. Se mi è dato conto. Mettimi solo. Abbastanza lungo sto coso. Questo incontro. È un po' sì. Allora, è colpa del master che non si studia i combattimenti prima. Ma no, ma perché visto. C'è una roba che non ho capito, io pure l'ho interpretato un po' a caso, però ci sta. Dopo dicelo. No, buono, semplicemente alla fine non, cioè sono stati solo delle grandi cose sprecate, visto che avete di più 50 a qualunque cosa. Vabbè, cioè incantesimi sulla saggezza fatti a un chierico e a un paladino. Avrebbe dovuto fare di qua. Non c'è più. Come si chiama? No, cazzo. Capire se sta roba è. Beh, il Magic Missile non è adatto, quindi ve lo può fare in realtà. Che cosa? Non è? Il dardo incantato ve lo può fare, anche sì, se è in combattimento. Perché non potrebbe, certo. Boh, non lo so. Di solito se voglio fare una cosa non si può, non se voi invece la volete fare. 3, allora facciamo su Katta 3. Ah no, Katta è. No, facciamo su. Boh, su Giulio, dai. 3, 3 e 4. Anche se poi in realtà quello che era andato in corpo a corpo era Lazzaro, che ci penso. È il cane? Sì. Potrei fare su di lui in realtà. Dillo prima. Non mi ricordavo chi era in corpo. Vai, facciamo su Giulio, dai, me l'ha detto Giulio. No, nel senso dillo prima che in caso sì, usa no, le cose. Basta, via. Sì, sì. E sta a te. A me? Sì. Continuo ad attaccare quella, quella lì. 22. Sì. E 10, 16, 19, 22, 27. Ok. Sì. Sì, non lo faccio neanche vedere, vabbè. E sta a Arian. Faccio sull'altra. Sì. Faccio Spiritual Weapon. Ok. Quindi compare un'arma spettrale, sì, fluttuante, una lancia dorata. D'accordo. E faccio un attacco. Vai. Sedici. Non prende. Niente. Sta a Quakert. È ancora la pozione. Ah, è vero che è una bonus action. Per fare un counter. Faccio Sacred Flame. Sì, Sacred Flame. Destrezza 16. Ah no, sta bene. Destrezza 16. Sempre su quella là. Non passa. Una roba radiante. Uccisa da una roba così. Vai. Sta a Quaker. Rimane quella. Sì. Che è quella romana. Quella che è romana. Quella che ho davanti a me. State uccidendo una povera ragazza. Esatto. Beh, è lei che ha iniziato. Però è lei che è sulla mia proprietà. il cane la infastidisce quel tanto che basta, perché io le sfere in bel critico. No, invece no? È soltanto un 15. Non prende. E quindi invece col secondo attacco critico. Ecco, un 14. Non prende. Cazzo. Passo. Vai, sta lei. CD 16 sempre. Passa. Belli sti incantesimi. Si becca solo grosso colpito al guardia. Una metà di 13 danni, quindi 6 danni. 6 danni. Ok. Mi sa che devi assegnarmi quelli che mi hai dimezzato negli ultimi round. Sì. Va su Arian. Perché non dimezzo più da quando 5 2 Ah, sempre da 5. Non c'è concentrazione. 5, 2, 5 su di te. Ok, 12. Tocca a me? Sta a te. 22. Sì. 12, 16, 21, 26. Per 12, 16, 21, 27. Va. Sta aerea. Mi curo. Sì. Ma usiamo. L'arma la puoi girare? Quella sì, che sì, evoca un buon attacco. La faccio dopo. Prima mi curo e sono 12, 17. Quindi torniamo a 30. Ok. E poi sposto l'arma e attacco la tizia. Puoi fare tutto insieme? Sì. Dovrei poterlo fare. È un'azione bonus, l'arma spirituale. Ti ricordi che la usavi anche tu quando hai evocato, sì, no? Però muoverla e attaccare? Sono la possibilità di trasportare sui piloni. Fino a 20 Vai. Piedi e ripetere l'attacco, sì, posso. 20. Sì. E quindi 1 di 8. 5. 9 danni da forza. Tutto bene. Sta qui. Oh. Forza bracco. Che bello. 19. Aspetta. Tardi, va bene. Sì, va bene. 8 danni. Ma questo chi è, il cane? No, sono io. Ah. Il cane mi ha dato 20 danni. 8 danni di spada. Secondo attacco. 2. Forza. Tocca a te. Quanto cacchio di vita ha questa qua? Non avrei mai. Ma muore con questo. Sempre 16 sulla saggezza. Ah, è vero, muore così. Passa, ma tanto prende comunque danni. 18, 9 danni. Muore. Ah. Sì. Torna in una forma normale? Sì, torna. Cioè torna nel. Diventa una stregaccia. Come quelle altre. Erano tutte troppo uguali? Sì. Classica strega. Con grega. Pensavo fosse la capa più grossa. È ancora più brutto. Ci sta. E quanto oro troviamo? Direi che la prossima volta ci occupiamo di tutto. No, il bottino, dai. Bottino non l'ho fatto, non, secondo me non dovevamo arrivare neanche al coso. In passato, cioè, per delle cazzate vi siete arrovellati 50 cose. E non c'è sta giro eravate tipo, sì, vabbè, ci sono dei personaggi, dai, combattiamo, calmate. Vabbè, il banchiere non noia. Cioè, una cosa un po' strana. Io non lo so. Voglio l'oro. Vabbè, a parte non tutto. Non mi interessa. A parte tutto, che il mio personaggio mi fregasse il banchiere, ci sta. No, sì, lo so, sì. Anche il mio. L'abbiamo pensato. Non è vero. Vabbè, va bene, così avete combattuto e siete stati felici. Delle due avreste voluto arricchirmi di più con la tizia che aveva le visioni dei, della popolazione. Aspettavo la vestila. Infatti ero quasi tentato di portarla sulla nave. E vabbè, va bene. È così. Niente, allora grazie per averci seguito. Prego. Avete visto il 19° episodio di Coloni, che si chiamava La Tana dell'Orso. E vi diamo appuntamento alle prossime sessioni, le prossime settimane. Potrebbe essere sempre Dungeons, forse inizieremo un nuovo gioco, ma diciamo da niente. Un mese, ma forse no. Non si fanno queste anticipazioni così. Ah, ma date tipo un mese che diciamo forse facciamo un nuovo gioco, ma magari in realtà ci sono tutti i seguaci che seguono Dungeon, sì. Che è, e invece un giorno arrivano e si trovano. Oh, un gioco nuovo. Come l'altra volta. Mi sono trovato Everyone is Gino. E va bene, vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons, anche su quella di RibGDR e sul blog ribgdr.wordpress.com, oltre che sul blog di RibGDR. E vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo il prossimo appuntamento alle prossime sessioni. Ma insomma, dimezzavano anche l'argento, adesso? No. Ah no? Avevano solo così tanta vita? Avevano 115. Cioè, 115. Cioè tutte le botte da 20-24 gradi intere se le sono prese? Sono prese tutto intero, con le vostre buggate. E anche agli amici del podcast, buonanotte.